ho visto che il mica però sta chiudendo. Ok, bene, allora per sempre. Ora siamo in diretta anche su podcast con il 14esimo episodio di Unstructured Heroes, che si chiama Un Nuovo Inizio, che è quello che dicono anche i camerieri del mica. Come forse sentirete barra vedrete su Facebook, con noi c'è un ospite speciale, cioè il master barra sceneggiatore. Lei l'ha cambiato un po' perché non abbiamo nessuno oggi in Skype. E quindi non c'è. Aspetta, posso prendere il computer e collegarmi a Skype? Cioè vado tipo in un'altra strada. Grazie Giulio per questo tuo contributo. Ecco qua. Niente, prima di passare a cose più serie, facciamo la cosa più seria di tutte, la sigla. Volevi chiudere la finestra? Volevo, ma non l'ho fatto, il cattabriga. Quindi adesso non fai... Non hai fatto, non sei riuscito a fare la roba che la sigla parte? No, no, perché non mi va a Ops. Il babbuinito. Non è io, è il computer mio, proprio non mi apre l'app. Oh. Va bene ruttare durante la sigla? O... Qualcuno vuole fare qualcosa di dietetica? dopo 25 Tiger Roll. Appunto, per non peggiorare la cosa. Bella quella foto. A casa mia. Sì, dovrei forse. Ne sei accorto la 14esima puntata, Salla? Non l'ho mai vista la sigla io, raga. Mai? No. Dove la vedevo? Beh, quando sei stato, l'hai vista. Non sono mai stato, sono stato una volta sola a casa di Kat ed era grande tipo di Tra l'altro avete tutto schermo. No, quando c'era Emma non c'era. Da là si va, no? Era quello lì la Biuzzo, sai? Abbiamo iniziato a giocare a Urban Heroes. No, era ancora in TV. No, quello lo so. Giulio, questo qua è perfetto. Non c'è però il non ci sono i proiettili con cui viene colpito adesso. Va bene. Mi passereste anche la coca, oltre all'acqua. La coca è Coca-Cola, ricordiamo. Ma sono sopra o sotto? Sopra. Ovunque. Ovunque. Hai le microspie in cacchi. No, oh, quindi chi facciamo saltare in aria oggi? Adesso che la finestra aperta. Esatto. Adesso alla finestra si vede il laser rosso sulla testa di Salla. Ma raga, quella bomba in stazione la vogliamo mettere alla fine o no? Allora, aspetta. Salla, ti chiederei la pribottì. Sì, e poi? E così apriamo eventualmente la birra. E... Allora, oggi non c'è con noi Sceo. Perché è morto dopo il sushi. Perché fondamentalmente noi abbiamo fatto un sushi che sarebbe dovuto durare normalmente, ma è durato un casino, un po' perché abbiamo mangiato un casino e questo è nella norma, e un po' perché ci hanno nessuna vita. No, soprattutto per quello, perché noi stavamo mangiando ad una velocità a un rasio. Non so, Arce ha spaventato tutti i clienti. hanno portato gli 8 Tiger Roll, non ha fatto in tempo a entrare e uscire, e erano finiti. Va bene, qualcuno di voi mi fa un riassunto. Quindi non c'è Sceo, ma c'è Torna Giulio con noi in trasmissione. Tira un dado a 4 e se esce Giulio lo faccio Giulio. Ok. 3. Cambiai. Che 3? Mi sentivo molto come con la Tumi. Numero pasta a caso 124 il numero 1, il numero 4. Che 3? Tu. Allora. Dove erano rimasti? Due erano aperti. Sì, ma molto vi troviamo a me comunque. Ti do anche il microfono così. È uscito il 2, quindi prendiamo l'1 e 2 a volte non faceva le somme tipo. Sì, ma mi ha sempre 1. Cioè le sommava 1 più 2, 3 più 5, 8, 10. E poi chiamava l'1 l'1 e lo 0 e 10. Allora 1 e 0, 1. Io l'altra volta ho joinato. Che eravamo tu hai giocato tutto l'altra volta la sì, però io mi ero perso perché la prima non c'era, quindi io sono intervenuto nel momento in cui fai qualche contestualizzazione tipo dove siamo. Allora eravamo lì nella sede in cui stavamo progettando per distruggere il progetto Mutate, distruggere il condominio. Vabbè, in una base segreta del professore. Base segreta, esatto. Stavamo progettando un attentato. In realtà, mentre tutti quanti, tipo Kat era legato al letto in attesa di essere sodomizzato, Vez stava piangendo in un angolo, Giulio, anche lui piangeva in un angolo. No, io stavo sparando ancora a fuoco. Giulio stava distruggendo tutto, io mi sono svegliato. In un mondo per scappare. Io ho trovato la via di fuga, ma ci hanno intercettato. Ma hanno sparato. Sì, hanno sparato i miei telefonini. Beh, io mi ero svegliato in un mondo, ero fattissimo perché era in un mondo di pietre viola, cose strane, in cui poi è comparso un portale e quando l'ho oltrepassato ho beccato Yak e sono entrato nella prigione, no? Da sto portale. questo portale era collegato con una delle prigioni del sotterraneo. Dove dentro c'era Yak. Quindi ho capito, diciamo, che lo Yak che invece era in giro, che era con noi fin dall'inizio, era un traditore. Traditore, un traditore. Esatto. E poco dopo, per il Sceo, nel tentativo di uccidere lo Yak finto, ha tirato una pugnalata all'aria, gli si è aperto il portale ed è finito dentro con noi, quindi siamo tutti e tre in galera. Ah sì, Sceo ha provato a uccidere lo Yak finto. Sì, con una pugnalata, ma è finito dentro la galera con noi. Ha preso dei gran legnate e ha sparato. Poi... gli ha tipo sparato, a un certo punto... no, a un certo punto gli ha sparato in testa, in teoria avrebbe colpito, solo che tipo... questo Yak praticamente ha fatto tipo un buco e il proiettile è passato in mezzo e lui fa e vogliamo continuare così, Sceino. Sì, bello, bello. Poi chi è che ci è venuto a liberare noi, Katta? Katta è riuscito a slegarsi, sì, è venuto a aprirci la prigione. Intanto Vez si è nascosto nel garage. Sì, io sono tornato su, però no. No, si è nascosto nella sala sistemi, poi è scappato, è andato su. Nell'officina. Io sono tornato giù, quindi mi sono un po' riparato, ho detto a Giulio, siamo fottuti, o ci arrendiamo, oppure andiamo fino alla morte. E gli hai tirato una scatola di cartone. E Giulio ha detto, morte! No, e poi si è sentito tipo un... e dei gran spari, e poi Giulio di Giulio non si è sentito più nulla. No, poi tu ti sei camperato nella sala, nell'officina. Io mi sono camperato nei sistemi, loro mi sono arrivati lì e mi hanno detto, devi uscire, se no ti spacchiamo il culo. E io praticamente gli ho detto, ho preso un po' di tempo, eccetera, eccetera, per cui a quel punto ho fatto un clone, l'ho vestito e l'ho fatto uscire. E per il momento... non l'hanno randellato di colpi. Per il momento ci hanno creduto perché mi sono nascosto. Io poi dopo sono riuscito su, però poi dopo nella prima sala non c'era nessuno, ma in quella dopo c'erano quattro guardie. E si è fermato lì nell'officina? E dopodiché mi ha raggiunto noi? Sì, perché ci abbiamo fatto il clone su che loro l'hanno tipo ucciso. E quindi in teoria poi dopo voi vi ho detto, vabbè, il master mi ha chiesto di graziarvi, cazzo, e vi ha fatto una via di fuga. Cioè ha bloccato i 12 sotto. Sì. E quindi noi abbiamo dovuto, siamo riusciti a prendere poi le chiavi, cioè c'era il veicolo pronto di quelle per la fuga. Esatto. Con il percorso luminoso sul pavimento. Voi l'avete preso, siete scappati. Siamo partiti. E poi vi siete visti più o meno in centro. E ora ricominciamo da lì. E ora stiamo cercando comodità. Di ribeccarci per far la partenza. Per comodità, esatto, ricominciamo da lì. Voi avete preso il furgoncino e lo state... Chi è che lo stava nascondendo? Io e Katta siamo andati con la mia mamma. Abbiamo già fatto. No, aspetta, ricominciamo dal furgoncino che è più comodo. Ah no, siamo tutti sul furgoncino. C'è stato un marasma di fine sessione, non ho ben capito. Siamo stati tutti sul furgoncino, poi abbiamo lasciato Vez, sì. E Giulio. No, Vez e Sceo. No, Giulio non è con noi. Giulio non è con voi. Vez, Sceo e Yak, esatto. A casa di Vez. Li lasciate a casa di Vez. Mentre io e Katta abbiamo continuato col furgoncino e siamo andati a Buccio di Culo. Esatto. E dovevamo in teoria continuare vedervi a muoverci. Con loro, poi. Sì, poi ci siamo però visti. Dovevamo continuare a girare in attesa che ci becchiamo con loro un altro grillo, hanno detto. No. Loro fine. Voi vi siete dati appuntamento là, mentre voi continuate a girare a cazzo per non farvi sgamare. Sì. Quindi loro prendono la macchina e vi stanno per raggiungere. Intanto voi due. No, Giulio. Ok. Ah, tu sei morto, quindi puoi rifare la schermata. No, dicevo, allora, tu sei fermo al. Crepate, stronzi. Senti la voce di Vez che dice: Giulio, è finita, o ci arrendiamo oppure dobbiamo fare qualcosa. Tu, morte! Cioè, non è detto proprio tipo: o andiamo, o combattiamo la morte. Vedi Vez che ti passa di fianco. Senti tantissimi colpi, ti colpiscono, il tuo cellulare smette di fare la fiammata, senti un dolore fortissimo, è tutto buio, non capisci un cazzo, e cadi a terra. Non capisci niente, ubriaco, ti trascini. Ubriaco? Ti fai il cicchetti? Erano gli alcolici. Cerchi, senti un dolore fortissimo alla testa e un dolore fortissimo al petto. Ti trascini, non sai dove stai andando, non capisci niente. Ti trascini per un tempo che ti pare interminabile, sembra che nessuno ti sia venuto a cercare, sembra che nessuno ti veda, quando a un certo punto svieni. E poi lo vedi. E poi cosa? Lo vedi. L'unico anello. Cosa? Va bene. Gesù. Intanto, voi due siete lì che guidate la cazzo, questa non l'abbiamo, io questa non l'abbiamo giocata. Ma abbiamo giocato Vez che prendeva la roba, non abbiamo giocato voi. Ah no, mi ha fatto anche che Katta andava, provavamo a cercare il GPS, ti ricordi? Sì, e non l'avete trovato, avete guardato nel davanti, nel coso, non l'avete trovato. Bravo Katta. Grazie. Ah, non avete giocato quando avete scaricato Vez, perché ha giocato solo Vez dicendomi cosa prendeva da casa sua. Sì. Sì. E poi, cioè, in teoria, vabbè, vai, gioca. Non l'avete giocata lì. Cioè, in realtà, sì, noi ci siamo ritrovati, abbiamo lasciato il camper lì e poi siamo partiti verso Marsiglia. Questo me l'avete detto, ma non andrà così. No, in teoria quello però è il piano. No, è il piano, sì. Dai, ci hai fatto anche la scheda. Non rompe. Meno 10 punti di esperienza. State girando? Tirami guida. Faccio palestra, quindi posso spostare la macchina col volante. Da dentro. Un di 8 devi tirare. Ah, per la patente? Sì. Fino a prova con 3. Cioè, in realtà ti fai tirare lo stesso. 4. 4. 4 e gatto. Senti, allora è ancora abbastanza buio e scuro in questa terra. No, vabbè. Senti, a un certo punto ti senti sbandare fortissimo. Contro la mia... No, senti che il mezzo sbanda e si blocca in un lato. Che cazzo è successo, Arci? Bella domanda. Avete forato. Flippato, passato. Cambiamo la ruota. Io alzo la macchina, tu metti la ruota. No, guardo dietro se c'è, dietro dove... Ah, non vi pare ci sia la ruota di scorta. C'è sicuro. Cercate, c'è un cassone in un lato. Lo apriamo. Aspetta. Come è fatto questo cassone? Salve, aspetta. Prima guardo se c'è il cruscotto della macchina, tipo le istruzioni, la roba lì. No. Vabbè, certo ci sono. Non ci sono. Ok, come... il cassone come è fatto? Ha la dimensione di una ruota? Sì, sì, è più grande. Ed è chiuso con in qualche modo. È chiuso con, ma non è un lucchetto, è chiuso tipo con un, sai, le cinghiette. Però è mezzo aperto. È interno però sto cassone, la sì, è dentro, è praticamente è, non è un cassone, è come se dietro avevi i divanetti, perché è tipo un un pulmino. Si alza il divanetto. Vedi lì. Aprite e vedete una persona piena di sangue. Chiudiamo, non è la ruota. E questa persona è Aspetta, Giulio. Aspetta, può diventare la ruota di scorta. È Giulio che è svenuto. È completamente ricoperto di sangue. Lo riconosco. Sì. Ok. Chiudiamola. Esatto. Riconosci il cellulare almeno. Ah, è vero, prendi il cellulare. Io che sono tiriamo fuori Giulio e tu lo curi. Gli sparo una cura quando lo vedo. Sperando. Gli sparo e lo spaggio. Okay. Non fa sangue. Ciao Giulio. Taglio su qua, tipo qui. E poi ha dei colpi di proiettile nel busto. I proiettili sono 4. Ho tirato. Sono ancora vivo. Sono ancora vivo. Tre proiettili, sicuro. Quali parte stanno no, busto e la testa. Ah, io dico cazzo. No, anche la gamba. Secondo me per evitare che perda sangue dalla testa converrebbe fare un laccio emostatico intorno al collo. Non sono d'accordo. lo faccio con le mie mani. Vai. Testa. Se non lo sta facendo su RGDR. Potar you questo spam di pagina. Io in teoria gli avevo dato l'impostazione per cui se postare curo 20 PF, scelte di redazione. Mi curo 20 PF in testa e quindi me piglio 10 io. Segnati che hai 20 punti ferite in testa. E poi la tua testa e il tuo busto sono a 0. Merda. Sono come un segno qua. Posso cancellare tutto. Io ho degli antidolorifici, anche di primo soccorso, posso dire qualcosa? Proviamo a... Posso fare qualcosa anche a livello, diciamo, non magico. Se non buchi i proiettili, servirebbe un... i punti. Ci metti dentro una confezione di occhi. C'è la scatola dietro il buco. L'altro... io ero rimasto che avevo le braccia sane. La gamba sinistra sana. Hai sentito Sala di quel pazzo? La destra che avevo 40. Con fare l'intervento... Il busto zero. Il trapianto di testa. È vero? Sembra è vero, è, diciamo che tutta la comunità scientifica dice ovviamente è impossibile, ma lo siamo fare. Anche su figo. È un neurochirurgo italiano. Oh. Figo. Sì. Vabbè. Sceglie come vuole morire. Però posso fare una prova di pronto soccorso per. Sì, potete tirare se volete. Come funziona aiutare uno a fare una cosa? Scusami, se io ho anche il kit di primo soccorso, che comunque vorrà dire che ho delle bende, delle garze. Sì. Però magari... sono buchi i proiettili. C'è una roba temporanea. No, ok, però avrei anche un po' di lacci e mostrare qualcosa, sì, magari sì, riesco a provare. Poi lui deve curarlo così, poi con un minimo di... Potete provare, sì. Usando di 6? Sì. Se io l'aiuto, che cosa succede? È una buona domanda. Facciamo che gli dai un più uno. 3 allora col più uno di 7. È molto provvisoria e... non... beh, un'oretta regge. Tu da tavolo puoi fare una minchia? No, Giulio è proprio posso... praticamente morto, cioè non sentite neanche respirare. Ah, ok. Allora fagli un massaggio cardiaco. No, gli posso, ma sta battendo il cuore molto molto molto molto molto lento. No, posso prendere una bacchina di proiettili sul buco, faccio un massaggio cardiaco, faccio lo squizzare della gran sangue. No, posso prendere un punto fatica e ricurarlo di nuovo. Ci stai anche pensando. Comincia ad accumulare. Comincia ad essere stanco. Adesso sono a 4. Vabbè, fanculo, cazzo, sei da Dio. Sì, ma io sono pigro. Sì, ho capito. E busto. 30, e quindi io me ne becco 10. Ok, sembra stabile però, perché gli fermi il sanguinamento. Sì. Dai, almeno. Dai, poi tra un'oretta... fai una prova di fatica. Esatto. Quindi non mettiamo giù le posso dare. No, purtroppo. E a parte quel cassone in cui c'è dentro Giulio, cioè, allora quel cassone c'è, cioè, sta dentro Giulio, era enorme. Cassone, era un tipo di vanetto. Sì, di... sì. Dove siamo? Io sto alla controllo, se intanto c'è una ruota sotto anche. In quello no, ma nell'altro sì. Due poltroncine nell'altro. Due o quattro due, punti? Quattro punti. Segna che. Tu eri già sotto stress. No, non ho. Non ho nessun. Perché dall'ultima volta che mi è successo poi mi sono riposato, quindi ero ancora a posto. Vabbè, segnati. Beh, io direi che visto che abbiamo salvato, tu lo metto la ruota alla macchina. Che fa? Appena mi alzo. Non puoi fare una prova che la cui difficoltà sia superiore alla media del dado che tiri. Becco un altro punto. Becchi un altro punto fatica. Ma okay. Punti fatica, ovvio. Non è un problema, sei morto. No, non è un problema i punti fatica, è un problema il tuo busto. Che è rimasto una cicatrice molto grande. Segna meno 10 subito al totale massimale dei punti. Sì. Vabbè, saranno un busto bionico per un po'. Vabbè, meno 10, cioè 10. No, meno 10, cazzo. Salla. Dimmi. I punti fatica, quando è che uno li prende? Quando fai uno sforzo. Ma tipo quando fai un potere? Sì, beh, anche se fai un potere entro un'ora dopo che l'hai già usato. L'hai usato, almeno che non prendi frequenza. Già c'è un basso sinistro che è 95. Pure il busto 140. 140. E va bene. Perché mentre siete lì, cambiate la ruota. Colpo che mi sono preso nel futuro. Cambiamo la ruota? No? Sì, immagino di sì. Ce l'abbiamo una di riserva? Sì, sì, sì. Ah, ok. Era sotto a Giulio. No, no, scusate, perché cioè, sono due, uno da una parte e se potere lo usi. Non tutti così, però. Sì, sono tutti così. Beh, allora quando nei miei fight uso più volte il mio potere? Prendi un punto fatica. Non è mai successo. No, forse una volta. Cosa? Prende il punto fatica quando? Non è mai successo. Ah, se faccio una volta non lo prendo, quando lo riprovo. Sì. Ma fa cosa? Se non hai frequenza migliorata. Ok. Avete cambiato la gomma. Un'ora dopo che continuate a girare, vi raggiungono al punto di rendezvous. Ah, ok. Vet, Sheo e Yak. Abbiamo una notizia buona e una cattiva. Ovvero? La buona è che Giulio è quasi morto, la cattiva è che è ancora vivo. Nemmeno questa volta sei riuscito a fare un po'. Che bello che Giulio è vivo! Però gli hanno rubato il cellulare. No, cioè, dobbiamo comunicarvi che con sommo gaudio. Ma che cazzo è Dungeons & Dragons? Messer. Sir. Giulio. È ancora tra noi. E scusami, in che senso è ancora tra noi? Gli ha detto qualcosa? Ti ha trovato sanguinante nel cassone della macchina. Ma voi siete arrivati lì? Cioè, siete fuori da... No, lo so. Io sì, interpreto sì, come il mio, cioè il personaggio vede tipo Katta che arriva. No, c'è Sho che guarda e fa, no, ma non era morto. Ci immagino tipo Katta che arriva tipo mezzo drogato. Mister Giulio. Sono sotto stress. No, riga, ma è una notizia fantastica. Grandi. Cosa ci fa lui ancora? Gli ha ancora con... Ma è cosciente? Adesso sta. Abbiamo fermato il sanguinamento, però è ancora svenuto in mezzo. Il fatto che così è lento. Tra un'oretta provo a rimetterlo in sesto. Dobbiamo portare all'ospedale. Se... No, per un'ora sta bene. Catta tra un po' lo cura. Ma sei sicuro di questo? Io cerco di fare il mio meglio. No, appunto dico, però se è messo molto male forse è meglio portarlo all'ospedale. No, per adesso è stabile. Ma tu ci hai detto che noi lo vediamo stabile, no? Sì, non sangue. Non sangue. Non sangue, ne batte il cuore, respira. Sì, sì, sì. Tipo mezzo... Ok. Comunque certo. Catta l'ha curato. Quindi... No, sì. Ok, questo è positivo, però effettivamente siamo ora uno di più. Abbiamo bisogno di un'altra macchina. E che è sul sedile. Che vuoi tenere il cassone. Va a vedere la dogana. No, anche perché comunque nella mia macchina il bagagliaio non ci sta. No, perché Vez ha fatto la spesa l'ultima volta, non so se avete vi ricordate. Sì. Ha preso tipo 20.000 robe. Robe. No, ma a prescindere, comunque in ogni caso non ci starebbe nel bagagliaio piegato. Chiunque. Piegato. No, il mio. Che muore nel bagagliaio, no, cioè senza aria. No, nel mio no, non ci starebbe chiunque. Il bagagliaio di solito non è sigillato. No, e... storico, no, allora piano, va bene, ok, e riflettiamo. Chi di noi ha ancora una macchina? La mia deve fare la mia. Io rega avevo scelto questo. L'avevo raggiunti e con la mia l'ho lasciata su. Ok, quindi tra quella di Sceo è su e quella di Giulio è su. No, quella di Arci è su. Quella di Arci. Quella di Giulio è disponibile, però. Non possiamo, Catta abbiamo bisogno della tua. Non l'avevamo presa per salire. Quali macchine avevamo per salire? Ne avevate due, mi sa. Sì, erano due, mi sa che forse quella. Una è quella di Sceo e l'altra. Sceo è venuto su da solo. Quindi non abbiamo nessuna macchina. Davvero abbiamo tre macchine per andare solo deficienti? No? Perché Sceo è arrivato dopo. Perché siamo andate secondo macchine? 1, 2, 3, 4, 5, ci stavate in una. Secondo me ne avete presa una sola. Una sì, sola? Ci guardo, ma non credo di essere una io sola. Io mi ricordo che o l'ho presa io, l'ho presa Catta. Secondo me l'ho presa. L'ho presa io. Ma c'era anche Yak. Appunto. Sempre 5 eravamo. Sì. C'era Jacopo. No, sì, 5, sì. Allora abbiamo una sola. Allora chi è che non è su? Secondo me l'avevo presa io. Non me l'ha presa Arci. Ok, quindi la tua Catta c'è. Sì. Allora dobbiamo passare da casa. No, quella di Catta era ancora là, forse nella casa. Però dobbiamo sbrigarci, in Canada. Regà, ma io non posso andare via. Tutta la mia famiglia è qua. Chi L'Ambra è qua. Chi sta parlando? Sceo. Sì. Sceo, è per il momento andiamo via di qua, per far perdere le tracce, poi ci ripensiamo, stiamo fuggendo per sempre. Sì, Sceo, in questo momento la devo chiamarli. La chiameremo, però prima partiamo e poi ci pensiamo. Sa, adesso non è che devi giocarlo per forza, mi scassa. Come ogni... Io praticamente divento oratore. Beh, Sceo, Ogni volta che giochi un personaggio tu sembra che il suo scopo sia rovinarci la vita. Effettivamente oggi Sceo con l'acqua. È Sceo, cazzo. Ok, rega, allora. Solo che a me piace l'Italia. No, raga, dobbiamo andare, cazzo. Siamo fottuti. Madonna impestata. Niente, quindi raga dice non che abbiamo qualche accaditore. Ho troppi PNG, non deve disattivarsi. No, vabbè. Riassumendo un attimo quello che ci è successo. Cioè, noi adesso siamo in compagnia del vero Yak per la prima volta dopo settimane. Ok, facciamo una cosa intanto. Divertiamo con la macchina. Giulio, lo tenete voi dietro. E ogni ora lo curo. No, e andiamo a casa tua a prendere la macchina e andiamo con la macchina. È l'unica. Eh sì, però non possiamo. La cosa che non volevamo fare era non andare con la Jeep verso la casa di un familiare. Allora, la Jeep la possiamo lasciare. No, qua. La lasciamo qua, Giulio, lo tenete dietro voi sdraiato. Sì, è assurdo, no, tutto nella mia macchina, che è piccolissima, però. Ah, ok. Eh beh, se un po' piccolo momento devo fare così. Sì, beh, se uno si mette sulla macchina. Ma la macchina intendi la tua, Aigo? Sì. Ah, ecco, va bene. Che tra l'altro sta guidando Sceo perché io sono tipo. Mezzo distrutto. Sì, in effetti abbiamo bisogno di riposare. Ci sono dei problemi però con l'acceleratore. Il mattone. No, c'ha la gamba adesso tipo giusta. Ma è che è alto comunque un metro un cazzo. Ah, è vero. Vabbè, sarà abbastanza. Cartone animato. È una macchina che va bene. Eh no, perché ha le macchie, ha le gambe corte in realtà. Sì, sì. Sì, no, è che è sproporzionato, non è dall'altezza, capito? Sì, sì. Cioè, puoi anche metterla, però lì diciamo. Vabbè, Quindi Giulio è dietro, allora, steso tre... su di noi, tipo. Sì. Allora direi Arci è più grosso, starà davanti, io, Catta, Yak stiamo dietro, ci mettiamo Giulio sopra di noi e lo copriamo con qualcosa. Raga, ho il vestito nuovo, cazzo. Yak. Toglilo. Grazie, Yak, copriamo Giulio con il vestito nuovo. Ah. Vegas non 1800 euro di vestito. A meno che non mettiamo Giulio davanti nel sedile un po' mezzo steso con la cintura e noi ci mettiamo. Cioè lo cambia. Perché catta sta in faccia. Se avete anche una Jeep. Va bene, dai, andiamo. Okay. Però. Sei svenuto, Giulio. Cazzo. Su questa Jeep, su questa Jeep c'è probabilmente un... GPS. Vai, andiamo, dobbiamo muoverci. Andiamo così, andando. Copriamo Giulio con un po' di vestiti in modo che non si veda che abbiamo una persona stessa. Ovviamente tipo alcuni possono andare con macchine diverse, altri stanno con la Jeep a fare un giro. No, per ora andiamo così, perché ho perso troppo tempo. Comunque è rischioso stare con la Jeep. Più che altro, Jack, come stai? Cosa ti è successo in tutto questo tempo? Guarda, in questo modo noi stiamo andando, eh? Io, rega, ero in una prigione e sono stato lì tutto il tempo. Ma ti hanno interrogato, ti hanno detto qualcosa, ti hanno torturato. Rega, io non gli ho dato un cazzo, però. E cosa ti hanno chiesto? Mi hanno chiesto di lavorare per il professore e arruolarvi. Io però non vi ho traditi. È quello che sto facendo adesso. Professore... Yak, sai per caso qualcosa degli interessi del professore nei nostri confronti, a parte arruolarci per cosa? Ma regà, io non so. No, il professore cosa voleva da parte tua verso di noi? Arruolare noi? Sì. Cioè riportarci. Almeno hai ancora un boost. Significa che ucciderò tutti quelli che vedrò da lì. Perché fino ad ora era funzionato alla grande. era esattamente quello che bisognava evitare. 10 punti per Perché i proiettili avrò per sempre 10 minuti in meno, 10 punti in meno. Dice nel cap totale? Sì, 140 nel massimo. Ma ti hanno maltrattato? Il mio massimo no. Adesso. Bene. Ascolta, Yak, anche voi. Decidiamo una cosa, una frase che solo noi possiamo sapere. Una parola d'ordine. Armani. Tutti quegli stronzi. Armani è abbastanza ovvio. Giorgio, dai. Giorgio. Una parola. Perché siamo stati fregati da. Cioè, non so se Yak lo sa. Ma Yak, noi siamo venuti lì perché di fatto c'ha. Siamo venuti da te a liberarti. Io non sono venuto. Ah, no, siete venuti in sigla. Ma perché ce l'hai detto tu? Ma non è. Rega, non vedo ciao, rega. Scusa. No, rega, piano, eh. Basta chiedergli con chi eravamo in banco il primo giorno di scuola. Ok, parte catta. Io non lo so. Però, vabbè, il primo giorno di scuola deve al quinta liceo. Ah, per essere sicuri che sia lui adesso. Quindi... No, ma anche ah, no, dopo, sì, no, hai ragione. Fai benissimo. Sì, vabbè, ma rega, non è che adesso io non ho detto niente. Tutti noi dobbiamo farcela. Non è sì, che adesso ti... perché io devo essere sempre la vittima, cazzo. Okay. Beh, io non posso neanche rispondere. Vabbè, raga, è facile. Gli altri sputi sulla giacca. Se non dice niente, non è Yak. Se comincia a avere una tacca, in realtà quell'altro è stato molto bravo. Esatto. Io direi che facciamo così. Quando siamo nel dubbio, qualcuno di noi dice destrutturato. Destrutturato. E l'altro deve rispondere nababbo destrutturato. Riga mi sembra una cosa stupida. Vabbè, però la facciamo, Yak, perché a sto punto non possiamo fidarci più di niente, di nessuno. Va bene. Anche il mezzo cadavere di Giulio, potrebbe non essere Giulio. Esatto, in effetti tra l'altro. Come cazzo ha fatto a finirci sto cadavere? Potrei tradire la gente anche se... Boh, io raga, controllo un po' la faccia, tipo lo butterei. Alla macchina due, controllo che non abbia... cicatrici. Sì, riprende a sanguinare. Va bene, allora andate a Cataland, prendete la macchina e poi vi distribuite con due macchine. Sì. Verso dove? Marsiglia. Adesso va a fare cagata, sogniamo Marsiglia. No, è la cosa più sensata in realtà. Andiamo fuori dall'Italia, numero uno, quindi dove in teoria il professore non ha controllo. Oddio, e come facciamo a sapere? Sì, no, possiamo... Salla. No, esatto, il discorso è che se Salla non ha poteri, è sempre stato il discorso, se no, Salla, no, poveretto, sta facendo la sua vita, andare lì con la calcagna dei criminali assassini, non è... No, andiamo a rifugiarci in uno dei pochi posti dove sappiamo di dove trovare... Andiamo tutti in Sardegna. Nelle due andiamo in un certo esatto, in Sardegna. Sarebbe dobbiamo prendere un aereo proprio, ci cioè, veniamo sgamando. No, andiamo un altro po', ma non sarebbe neanche solamente negli ostelli a cazzo, cioè... Nei giri più ti devi registrare. E perché a Marsiglia cosa devi fare? Alla frontiera cosa devi fare? Non c'è la frontiera, non ti registri nessuno. Ok, che hanno sospeso Schengen per niente. No, il discorso è che secondo me diciamo no, ha senso ogni tanto. Boh, vabbè, senso è dentro nei casini comunque, raga. Sai, allora, sicuro noi sappiamo nei casini che sono ci sai. Dalle storie che degli amici secondo... di Federica Sandiamo in Sardegna, no, io andrei a Marsiglia, forse da dopo da Marsiglia. Allora anche a cos'è? Vogliamo andare ancora più in là, va bene, però intanto andiamo a sappiamo che c'è Salla. Se vogliamo andare a Marsiglia perché c'è Salla, va bene, ma io andrei a casa di Salla. Ti mettono il cavolo per dire la fai da familiare. Andiamo lì, lo chiamiamo e poi ci mettiamo d'accordo. Però almeno abbiamo un contatto lì, capito, che ti può dare una mano. E comunque sia, io uscirei fuori dall'Italia. Noi non sappiamo bene come funziona questa organizzazione, professore, ma sicuramente sappiamo che lui opera in Italia e che in Italia c'è la polizia della sua. Com'è la situazione di Rosa in Francia? Quindi se lui lo sappiamo, cambiare aria comunque è una buona cosa. Sì, sì, ma e invece noi gli Stati Uniti semplicemente che se noi siamo l'alternativa che abbiamo scorso è la squadra speciale, io non metterei nei casini gente innocente, voglio dire, è come sì, se tu fossi ricercato la mafia e invece ricerchi un appoggio e qualcuno che ti possa dare una mano. Sì, non siamo ricercati dalla mafia, siamo quell'Europa un po' più casinata, ma non siamo criminali. Sì. Non noi, lui è un criminale, quello che ci insegue, ed è anche dotato di superpoteri e un gruppo di supereroi. Vabbè, insomma, giri gira sono più o meno. Vabbè, giri gira sono tipo le 7. Beh, noi stiamo andando verso Marsiglia. E voi state andando verso nord, diciamo. Quando passa un'ora ricorro Giulio. Va bene. Pensare ai punti fatica li usi se usi il potere, oppure se usi anche un'azione in più. Com'è cioè, più o meno all'altezza di. No, se usi un potere regione. Nella risposta, sì. Di parte. Nella reazione. Nella reazione, sì. Reazione. Risposta. Reazione. Busto o testa? Ma fammi testa. Testa. Fammi la testa, grazie. Un taglio leggero. Esatto, 200. No, boh, più che altro. Sfumato. Che magari ritorno cosciente con la testa. Appunto, busto. Ma scherzo. Faccio la testa. Anche come mi sono messo in testa? No, 40 ancora. Vai, testa. 30. Sono full. Sei full, però sei ancora bene. Io vi faccio una domanda tecnica. Come... No, il problema è l'utilizzo dei cellulari, tipo chiamare non possiamo chiamare, però mandare un messaggio WhatsApp. No, raga, io lo butto via, vedete Yak. Tra l'altro Yak come fa ad avercelo il cellulare? Giusto. Qualcuno. Sponti di stronzo. No, dipende, se questi hanno accesso a super cose possono anche tracciare le schede. Se... i messaggi WhatsApp non li possono leggere, però se tracciano la scheda... E intanto il numero è lo stesso. Ah, raga, la pagina come su Italia c'è il RIP GDR. Cioè, il messaggio di WhatsApp non lo tracciano, ma il numero che manda il messaggio... Per lo sì, ma quello lui, per quello basta che ce l'hai esercito. Infatti. Cioè, anche io sono amministratore, però i massimi benedetti. Quindi quelle frasi che leggo le scrivono loro? Sì. Beh, sì, potrebbe scrivere. Sì. Potrei scrivere anch'io. Sì, ma di solito non sarà così. Ci sono quelli che scrivono io, lui, Edo, Jacopo. Cioè, io difficilmente ti farò uno stato al massimo. Per cui sì, le parole sono o sono due o dei testi di... dovreste firmare bene. Ma lo stato in cui è scritto spesso vogliamo la parola amici è stato tu? No, Edo. Infatti l'ha sbagliato. Edo conosce, infatti perché conosce sei famosa anche in Francia perché quando mi chiedono tipo ma tu sei pieno di amici in Francia, io spesso usiamo la parola è stata raccontata così poche volte sta storia. Va bene raga, allora se dobbiamo informare qualcuno allora non mi interessa casa, ditemi una cosa. Facciamo adesso Alessandria, sinistra, dritto, destra. Aspetta un attimo, prima di questo bivio qua, tanto il tempo per decidere questa cosa ce l'abbiamo in viaggio. E se dobbiamo informare qualcuno, che sia Ambra, che sia mia madre, lo facciamo adesso. Dopo è meglio se ci prendiamo delle nuove schede telefoniche. Possiamo usare i telefoni fissi. Chi sta parlando? Chi è lei? Le cabine telefoniche. Sì, possiamo usare dei telefoni fissi. Usiamo i telefoni. Cabine telefoniche, autogrill. Sì, no, ti sto dal cuore, gentile. Sì. Chiamata però viene tracciata. Beh, è un telefono di un autogrill. Allora a questo punto spariamo. Mi tracciano WhatsApp, mi tracciano anche. Un telefono fisso non lo tracci. O sai quale parte, ma non lo tracci. Vabbè, magari dice quell'autogrill ha chiamato casa di Sceo e chi se ne fotte. Vabbè. Quando abbiamo tempo di fare questo, io informo mia madre che c'è stato un casino, vagamente, e gli dico di non tornare a Bologna, cioè di stare attenta a non tornare a Bologna, perché adesso sarà tipo al casino. Questo Shion chiamerà Ambra e voi non lo sapete. Sì, io dirò ai miei invece che abbiamo deciso con... Andiamo a trovare Salla. Esatto. Yak chiamerà le merde. No, invece no, merde. Non dite, non diciamo che andiamo a trovare Salla, perché non dite a nessuno questa cosa. Secondo me tanto. Appena arrivate Instagram. I miei amici. All'epoca non avevi ancora Instagram. All'epoca non avevi ancora Instagram. Hashtag ciao professore. Potremmo farci dei selfie modificati con dentro, dietro degli sfondi falsi per depistare. Tipo con la Torre Eiffel, così. Il giorno photoshoppata. Dopo a Pechino, invece. Esatto. Un'ora dopo. Per confondere le acque. Sai che mezzo stanno usando per volare? Che trasporto gli acchi. Vedi. Vabbè, dica che vado via in vacanza con voi. Dove? Incredibile. Non ci crede nessuno. Non è mai successo. Poi via dalla palestra. Via dalla palestra. Beh, la tua macchina non è lì, però. Esatto, dico che ho preso la macchina. Va bene. E poi da Alessandro andiamo verso Marsiglia. Alessandro. Ho già fatto la scheda. Sono OP. Va bene, dicevo verso le 9. Anzi, ad Amsterdam. Verso le 8 vedete un messaggio di Fede, credo. Ah, sì, è vero. Dice tipo, che cazzo è successo? E poi c'è un messaggio mio che dice, ma che cazzo state dicendo? Ma non andate mai a dormire, Dio buono. Hai cantato di sera, ce l'hai letto? No, sì, per esempio. No, sì. Ha scritto tipo alle 4, sì, stiamo per morire. Ma alle 4 pomeriggio? No, di notte. Mentre quando sono tornato, è domenica. Una sala sistemi, e pensavo, adesso sono le 8 di mattina. Io ho fatto un messaggio e ho scritto tipo a Salla. Addio amici, è stato bello. No, a Salla, a Fede, a Ema e a Sceo, perché Sceo in teoria era fuori. Vabbè, bastava in uno dei gruppi che abbiamo. No, beh, ho scritto a loro. E gli ho scritto brevemente che stiamo morendo. No, tipo, ho detto tipo abbiamo, cioè siamo tipo rimasti prigionieri perché abbiamo dei poteri da questo qui che ci vuole uccidere e siamo qui in questa posizione, e addio, tipo una roba del genere. Vedete un messaggio di Fede che fa tipo, ma Dio, che cazzo avete fatto ieri sera? Un messaggio di Ema che in realtà non dice niente perché mi sa che poi Scegli ha scritto un'altra roba. Ema o l'ha visto subito o lo vedrà tra un giorno. Ok, allora non l'ha visto. E poi c'è un messaggio mio che dice tipo, andate a letto dopo le 2, non scrivete cazzate sui gruppi. Va bene. Vabbè, io... è troppo presto adesso per... I cellulari li buttate? Allora, no, il cellulare no. No. Io ho un'altra scheda però. Sì. Vabbè, la scheda se non è dentro un cellulare non lo so, ce la devo buttare, no? No. Cambio scheda, ok, e vedo quella roba lì, posso anche rispondere fondamentalmente. E sì. Cambio il numero WhatsApp, tutte quelle cose che devo fare, e gli scrivo, è successo un gran casino, rega, però ora stiamo bene, e stiamo cercando di non farci trovare. Se qualcuno vi chiede di noi, non dite nulla. E basta. Vabbè, Fede. Però la situazione è abbastanza pesante. Fede pensa che tu stessi una cazzata e dice: è il mio contatto. Va bene, bella, dai, Vez, poi mi racconti tutto, Vezzino, di quello che hai fatto ieri sera. Vabbè, io scrivo tipo che aveva i poteri comunque. Eh sì, ma vabbè. Lo so. Minchiata. Invece io ti rispondo tipo, vabbè, l'importante è che non vi ubriacate e andate a dormire la sera. Vabbè, per il momento va bene così. Ok, quindi guidate. Chi è la guida? Ci daremo dei cambi. Farete i cambi, immagino, sì. Non dormirete, eccetera. Sì, si recupera qualcosa? Assolutamente no. Neanche fatica? No. Anche se si dorme durante in macchina? No. Sì, no, forse. Non recupero il cazzo. Mi dici sì, no, tu devi riuscire a beccare la domanda. Prendo 5 punti di esperienza in più? No. Sì. Allora 20. No. Sì. Vuoi un po' di coca? Sono vivo. Sì, a tutte le... E ok. Beh, dopo tipo 4-5 ore si sveglia anche Giulio. Eh? il mio telefono. Alza da baseball, colpo Giulio. Tra io sono zombie. Io sono qua, posso interpretarmi. Tutto Giulio. Non mi sono mai svegliato così. Dov'è il mio telefono? Ecco perché era svenuto. Perché sei tipo di scatto. Hai presente la scena di dolore al petto? Immagino. Di Hook, capitano vicino. In cui spacca tutti gli orologi. Mio! Come tutto il telefono? Tutte le puntate che non si rompe così facilmente. Ti svegli tipo. Perché? Fa per le visioni indistruttibile con un potere? No, è di suo. Perché è magico, perché Xiaomi. È magico, perché è un oggetto magico. Xiaomi, tu vuoi essere sponsorizzarci? Cazzi, qualcuno. No, sì, faccio anch'io. No, sì, telefonate. No. Oh, stiga. Vabbè. Oh, donna. Oh, non torno a cena. Dove siamo? Volevo dirvi da parte qualcosa. Siamo verso Marsiglia. Siamo riusciti a fuggire dall'assedio. Giulio, come stai? Dall'assedio. Un po' una merda. Grazie. Ah, è grande. È ritardato. Cioè... Anch'io. No, sarebbe anch'io. È felice? Anch'io. Eri felice? No, direi di no. Merda, Giulio, pensavamo fossi morto adesso. Che... Magari. Non te, Yak. Anche te, Yak. Preferisco essere io, anche se è un cazzo di dolore al petto. Ci sei andato vicino, Giulio. Non si sa come sei, probabilmente grazie agli allenamenti. Tu, ma cosa ti è successo? Sapevo che gli avevo iniziato. Cosa è successo? Cioè, io ti ho detto, ti ricordi che ti ho detto che eravamo non fottuti? Non lo so, sono stato colpito e mi sono trascinato e ho perso la cognizione del tempo e a un certo punto sono svenuto. Cioè, noi abbiamo preso sto camion, siamo riusciti a fuggire grazie a Void, e che tra l'altro forse sarebbe meglio provare a contattare in qualche modo. O forse no, per il momento, forse no. Gauta, non ci fidiamo di quella merda di Void, raga, comando io qua, cazzo, l'hai detto tu, eh. All'inizio no, onestamente, perché comunque lui ci aveva fatto andare lì. Però la bandiera con testa di Void, quel bruciato, che ha fuoco mentre andavamo. Ha scritto tipo, esatto, ha scritto Void. Tanto, adesso mi fido, adesso mi fido di Void, sul momento. Mi fido di Void. Simpatico, ci ritorno a Marsiglia. Non lo so, che sono stato colpito, ho sentito un gran dolore, erano come anestetizzato, mi sono trascinato. Merda, giù. Ma quindi penso... non ti ricordi che ti hanno sbattuto quelli per questa macchina che sono chiuso dentro le canzoni? Eri già svenuto. Ma come ti sapevo tu, Arci? Non so come sono finito. Ti ricordi che ti hanno colpito ripetutamente la faccia? No. Non ti ricordi uno che ti urlava, metti più peso, secco! Ah, esatto, curami un attimo le nocche, per piacere. Non ti ricordi qualcuno che ti ha preso schiaffi? Destrutturato? Ben pensato. Destrutturato. Da babbo. Da babbo destrutturato. Lo sono già dimenticato. Ah, immagino che non abbiate preso. Va bene. So. Cosa? Fuori dal gioco. Non avete preso dei vestiti di ricambio? Solo sì, vecchio. Sono vestiti miei. Le mutandine. No, perché io ho dei buchi nei miei. Sì, poi ti do delle magliette mie. Sì. Vabbè, saranno un po' corte, ma... Beh, allora mi sa che tutti siamo da cambiare, visto che tra sangue, anche semplicemente solo per provare a curare Giulio, anche noi ci siamo mezzi. I vestiti userete i miei, rega, perché non saranno perfetti. Beh, ma... magari possiamo anche comprare. No, basta grazie che... vezzino. Basta che qualcuno però... si fermi. Non saprei come indossare. Basta che qualcuno si fermi anche in un supermercato. Sceo non può vestirsi. Comunque Giulio, noi in questo momento tanto siamo... è stata la maglietta dei pantaloni. Stiamo fuggendo e stiamo andando verso Marsiglia. A parte che non saremo tutti insieme, immagino, però vabbè. No. Abbiamo deciso che il casinare... Su che macchina sono? No, in realtà siete tutti voi, e Sceo e Jackson nell'altra. tipico espediente narrativo. Impossibile. Espediente narrativo. Sceo e Jackson che è nell'altra cosa? Nell'altra macchina. Quale? La tua. No, quella di Katta. Allora no, ci sono Sceo, Jack e Katta. Ciao Katta. Ero con Giulio perché lo curavo. Sì. Vabbè, l'autogrill hai curato. Vabbè, adesso siamo, diciamo che siamo in un momento in cui ci parliamo, possiamo parlare, facciamo così. Con gli auricolari vicini nelle mani. È vero, avremmo gli auricolari, potenzialmente potremmo. E vabbè. Espediente narrativo. E vabbè, comunque Giulio, praticamente noi siamo, grazie a Void che ha bloccato le guardie, siamo riusciti a fuggire, abbiamo preso questo camioncino che poi abbiamo abbandonato e ti abbiamo, cioè a quanto ho capito... abbiamo trovato dentro il cassone dentro, cioè proprio culo. C'è scritto sopra scemo chi apre e dopo una vite io e cacca ha detto catta. No, c'era scritto sopra riportare a... per cui stiamo tornando lì dal riportare professore. A bottiglia di zocche. E quindi ora andiamo a sputare. Sì, ora Rega, io farei che arriviamo a Marsiglia e poi ci mettiamo in contatto. Domanda, ho la mia spalla? No. Ah, non dovete andare a casa di Soffri? Cioè, almeno non rischiamo. No, comunque... Direi che essere fuori dall'Italia è una buona cosa, perché comunque... Tornare in Sardegna. Saranno 200 euro di spalla. In Sicilia. Saranno? Cos'hai detto? Erano 200 euro di spalla. Beh, la tua cappellaccia varrà di più. Erano anche 900 euro di drone, ma... Non sa guidare un drone, cioè, t'ha guidato no, bene, più che altro Vezza hai ragione di quello che dicevi prima, che ci tenterei in qualche modo di contattare Void anche per sapere qualcosa sul... aspettiamo magari di essere oltre il confine, cioè non lo so, metti che non ci arriva lui con il roaming. Beh, però dopo adesso abbiamo mai capito come si contatta Void, cioè ogni tanto quando abbiamo bisogno, tra l'altro lo faceva Yak che non era Yak. Quindi. Esatto. Anche lì. Scusate, non stavo leggendo. Ok, quindi continuate a guidare e dopo 8 bellissime ore... No, io magari avviso che sono i miei che sto andando in Sardegna. No? Ok, e Federica? No, Federica... Che sto andando a Bologna. Va bene. Federica non dico mai quindi particolare. Che gli devo dire tipo, beh, io comunque dal tuo cellulare ho dato un selfie con te che morivi. Giulio la mattina dopo la sua selfie with the dead. Esatto. C'è un no è hashtag è tipo chi non vuole si rivede, no, la notte leoni. The hangover. The hangover, sì. Va bene, vabbè, Federica, ciao, come stai? Dicevo, sto bene. Dopo 8 bellissime poi ore, poi ti racconterò. Arrivate in una città che non conoscete. Dipende. Google Maps. C'è un cartello. Dimmi il nome, dimmi il nome. Marseille. Marseille. Hobby Internet. Hobby Internet, senza roaming, grande, con la sim sballata. La sim, uso la sim diversa. Cosa vuol dire? No, ah, perché dici, ah, dici la cartina dentro all'interno. Però andiamo da uno Starbucks a scroccare prima il wifi. Prima del uno Starbucks. Prima del siamo mica in Inghilterra. No, prima del confine. No, io non ho mica cambiato. Io ho il mio cellulare perfetto. Sì. Prima del confine. Sì, appunto il fatto che lo usate che... No, prima io ho una schedina. Prima del confine posso attivare l'opzione estero. Ok, quindi i cellulari li usate, li avete tutti accesi? Sì, io sì. Il mio è spento. Io con la nuova SIM però. Nuova carta. Mi tolgo i soldi per qualche giorno. Sceva ha staccato tutto, tolto batteria, SIM. Anche io. Ah, io potrei usare l'altro cellulare in realtà. Abbiamo la SIM. Però vabbè, alla fine se la SIM è tolta, è che sia quel cellulare lì e non è rilevante in teoria, no? Non traccia il cellulare. Ora uso la SIM nuova sul cellulare. Massimo, poi prenderò una SIM francese. E però lo tengo normale. Allora, io attivo l'opzione internet. E boh, se è team per cos'è? 5 euro. Sì, no, sono tipo 20 euro per 10 giorni. Minchia. Ecco, come la team piuttosto. Vabbè, poi magari poi cercherò un cellulare sì, tipo a 40 euro. Vabbè, sì. Allora, poi si spera. Sì, ci sono quelli. Comunque nel frattempo così ce l'ho. 4 ci tolgo 20 euro. Ok. Vecchi Motorola che si toglie la batteria. No, benzina, no, ma ci sono... Troviamo qualcosa? Benzina, sì, toglietevi. Ah, intanto vi togliete in totale... sono 120 euro, 140 euro... A 120 sono 20 a testa? No, in totale, per due macchine, 140 euro diviso voi 4 più gli altri due. Siamo 6. Fai 120, se la facciamo in testa. 120 quindi sarebbero un po' di più, ma beh, anche di più, cioè, con la Aigo rega però io con la Aigo ci pisci dentro davanti rega, io però non ho soldi, rega, non ho neanche un soldo, che yeah. li metto io, quindi via. E ho, lasciato, ho lasciato il portafoglio nell'altro yak. Nell'altro yak. C'erano 10. Tento. Aspetta, adesso ci penso io. No, ciao. Sì, ma vabbè, 10 metto io, 10 metti tu. Mi spiace, no, raga. Io lo ripiglio come contatto, che tra l'altro non l'avevo usato lui perché non era lui. No, lui ce l'hai come contatto. Quindi me lo ripiglio. No, raga, mi spiace, io proprio non ce li ho. Cioè, non ho il portafoglio. Beh, 10 te li metto io, 10 te li mette Arci. Vabbè, beh, grazie, raga. Però è costoso, cazzo. Lo so, Iac, d'altra parte ci dobbiamo salvare. Passa una di 12. Una di quelle 12 che hai vicino, non dare. Le gomme? Sai che voglio portamine? Chi le catta? Va bene, quindi arrivate in questa città, appunto, che non conoscete. Ah no, devo togliere. Io tempo. Non ricordo il nome della tua via, però ricordo la zona. E quindi? A livello tecnico, sì. Quindi? Quindi vabbè, la cosa che fa, che ora è? Sono le 10. Le 10 del mattino? Sì. 4, 8, diciamo 10. Ti scrivo e ti dico, Salla. No, io e gli altri, cioè quello che ti ho scritto ieri sera non è una gag, e siamo però fuggiti e ora siamo a Marsiglia. Cioè, ti mando una foto. Smile, tipo. Mando una foto della macchina in cui siamo, specie di mezzo selfie, in cui ti faccio vedere anche Giulio. Ma voi non avete schede, raga? Sì, io non ce l'ho esattamente come... Il tuo, anzi, però è un iPhone. No, ma stai usando la tua scheda normale? Sì. Siamo tutti in modo di non farti tracciare. Io nella collatera la Buzz che si va dall'estero mi danno comunque una marea di internet, quindi sono contento. L'ultima volta che posso usarlo. No, però anche e quindi ci facciamo scoprire. No, esatto, però no. Beh, raga, ma comunque WhatsApp è... No, cioè ci mettiamo d'accordo sul fatto che no, invece non lo uso, io. Cioè poi ci faremo delle cose, però non lo puoi usare adesso. Vabbè, allora fai mandarlo tu. Sì, io infatti sto scrivendo io in privato. Però dico, visto che Salva magari sente ridere, gli mandiamo la foto della faccia di Giulio su figura. No, dico, guarda. Ma Giulio è apposta in faccia. Beh, allora gli facciamo vedere che Giulio è ferito. Comunque c'è sangue sulla macchina. Vabbè, ci possiamo fare una foto a Marsiglia se non ci credi. Però ti dico, guarda che siamo seri. Ci possiamo vedere a pranzo a... Gran bestemmia. Da te a... Da me in casa. No, al laboratorio. No, è domenica. È domenica? Sì. Ah, allora sì, no, adesso in casa. No, non in casa. Raga, non ci state in casa mia. No, cazzo siete? Non in casa tua, cioè, dove vuoi, però ci possiamo vedere da qualche parte. E vabbè, vediamoci. Anche l'ospedale, se vuoi. Se vuoi. Se vuoi. Vabbè, dove siete? Non so dove siamo. Siamo. Possiamo andare con la posizione. Siamo Castellà. Castellà. Castellà. Vabbè, vediamoci. Boh, dove potete parcheggiare. Vi do tipo un indirizzo. Sì. Di un posto. E voi lo raggiungete. Io sono lì che smadonna intanto, ma che cazzo, ma porco. Ma guarda questo, ma come, guarda. Come mi creai la connessione tra tutte le storie. Che due coglioni. La possibilità di fare una civil war. Salla. La civil war. Ma di cose serie. Io non so se tu lo sai. C'è la palestra. No, no, perché io so. La prima cosa importante. Io so che... Siccome... Una delle tizie che mi chiede i polpacci, così abita. Io sparo, spingo forte, finisco il lavoro, spingo forte nei punti, bisogna fare 5 colpi, schiaccio so i punti. Che raga, ancora non lo sapevo di questa cosa, non puoi fare. So che il professore non è riuscito a fare. No, dico, Salla, tra le, come ti ha detto Vez, purtroppo tra vari come esperimenti. Me come me lo dici? Non hai il cellulare. No, ci siamo già beccati. Ah no, allora vi stavo descrivendo. Arrivati in un posto. Ci sono già messi già beccati. Arrivati in un posto un po' che vi ho dato, un po' isolato. E praticamente c'è. È un posto un po' inculato in una mezza collinetta. E c'è una sorta di spazio per parcheggiare le macchine. In questo momento c'è un po' di via vai di gente. che sta arrivando, quindi c'è parecchia macchine gente. Macchine nere, gente in divisa, fucili, ma Salla. C'è parecchia gente che arriva e parcheggia e scende a piedi. Che stagione è? È estate. No, era settembre. Va bene. Cioè, fine settembre. Metà settembre. 17, sì, era tipo il 17 fine. Settembre. Cioè il 18. C'è parecchia gente che parcheggia e scende. E vedete anche che ci sono io in macchina, che smadonno. Cioè, i miei amici sono venuti a trovarmi, che brutto! All'improvviso così. Sei sceso dalla macchina? Io non voglio, grazie. Cioè, se vuoi, vieni con noi o no? Cioè, vieni da noi nella macchina, c'è un posto sì, in più. Sì, no, voi arrivate, parcheggiate lì di fianco, vedete tutta sta gente che appunto c'è un po' di macchine che vanno in su. Ma cosa, tipo una collinetta che ci fanno i picnic? No, è che c'è tipo una passeggiata, si va al mare. Ah, ok. Beh, allora mentre facciamo una passeggiata in giù. No, vabbè, scendo, faccio quindi che... Io non so, ci siamo fermati a comprare una maglietta. Ah, no. Sì, sì, raga, che cazzo è successo a Sceo? Lui lo vende. Che Salà, cazzo è? Hai presente quando ti raccontavamo quando Vez ha raccontato dei superpoteri? Purtroppo non è una gag. Sì, il messaggio degli amanti che avete mandato. Esatto, purtroppo non è una gag, perché in seguito degli esperimenti, guarda cosa c'è, cioè, se abbiamo dei poteri, e tanto tipo per scherzare. Ti frego il cervello. Per scherzare. Tanto ti troviamo meglio. Vedi, abbiamo guarda, dei poteri. Perché... ho il potere a livello medio fiammata. Perché Mezzo non rigenera e voi non lo sapete. Ma bravo, fare un altro e far fine di Salla, di fare a fianco e uno nudo. Ah, giusto. Tipo che sposto una cosa da terra a caso. Sì. Per convincerti, fatti dire che è una cazzata. E poi ti dico: anzi, in realtà, faccio anche questo potere. E questi non sono i droidi che stiamo giocando. Ce l'avrebbe. Ce l'ha anche Laz. È complicato. Che Salla. Potere c'ha Laz? In realtà è quello di viaggiare nel tempo. In realtà Salla noi sì, è successo. E in un viaggio nel tempo sembrerebbe che anche tu abbia un potere. Non so se sia reale, però nel caso magari ce l'hai e non devi ancora entrare ancora tira su sociale. Dai, Salla! Sono un PNG come tutti! Che io ti ho come contatto! E dimmi le voci! È un mio contatto! È un mio asset! Che contatto hai cambiato per avere Salla? No, io ho Salla. Non ce l'avevi all'inizio? Sì. Salla, Fede e Yak. Ma sì, tu ne hai un po' tardi a cazzo. No, dopo Ema. Sì, è Ema. È vero, è Ema. No, ce l'ha Sceo Ema. Dimmi Ema allora, se non scrivo Ema, Ema non sembra contatto diverso. No, Ema no, perché Ema è un contatto un po' del cazzo. Non so. Vabbè, dico... Sì, lo so del potere di Laz. Quindi sei anche del tuo? Perché? No, sai del cioè, potere sì. Di Laz? Sì, so del potere di Laz. Come fai? Perché l'ho visto. Cioè, siamo visti. E tu? Ci hanno visti e infatti è... Ma sei un falso come la merda quando mi hai detto che potere tu, è impossibile, siete ubriachi, Vabbè, pensavo che oggettivamente fosse ubriachi perché non credevo che avessi i poteri. E come ha fatto Laz ad averli? Non lo so, io l'ho visto, lui ce l'aveva e è figo, è carino. Mi voleva anche insegnare a usarlo, non è male. Tu come insegnare a usarlo? Che cosa fa lui? Fa indietro nel tempo. Sì, però sa adesso. Vabbè, adesso va bene. È come, figo. Va bene che quando tu usi un PNG sembra che abbia perso. Sembra che abbia dato una specie di babbui. Come lo stai usando te che sei improvvisamente ritardato. Dico butta in bianco viene iniziato a parlare dei poteri se me l'ho lobotomizzato. No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè. No, però pensavo fosse. Però è stato tipo così, tipo. Io pensavo che ci fosse una gran cazzata che aveva dei poteri, eccetera. Poi tipo. Dopo. Ah, ma raga, ma i poteri ce li hanno tutti, dai, io non so neanche più di no, loro. Vabbè. Salle figlio della fortuna. È vero. Mi lamentate dei miei. Cioè, nel senso, ho visto Laz perché è venuto a trovarmi. E in effetti può controllare il tempo. Pensavo non lo sapeste tutto qui perché mi ha detto è una cosa segreta. Tra l'altro è una cosa che lui mi ha insegnato un po'. È carino. Cosa? In che senso? Sì, guarda, e prendo un sassolino, lo lancio in avanti e poi prego Dio di fare più di 4 col dado. E il sassolino ho fatto 4, non più di 4. Vabbè, uguale, difficoltà 4. Sono il master, posso fare più. Guarda, i bar si aprono. E vedete. Guarda, lanciare è solo un option. E vedete il sassolino che mi torna in mano. Cazzo, Digno, ma quindi wow. C'è tu il potere. Siamo a cavallo. Non abbiamo bisogno di altro, bruciamo. Tu, no, professore! Venga, ma ho un'idea, se lo consiglio al professore, forse il professore non ce lo rivivo con. No, io ti dico. Perché. Non possiamo tornare indietro nel tempo. E avvisarci mentre stiamo di cioè che? Ok, mentre andiamo a casa, io so fare solo questa roba qua, non lo so, scusa, come ha fatto ad insegnarti? Ma è una roba tipo magica che fa, mi ha insegnato un po' di cioè come devo muovere le mani. Ah, sono delle formule magiche. No, è tipo non lo so, però non ci vuole una all'1:20. Cioè ci vuole delle basi, sì, qualcosa che è in particolare, non è che qualsiasi stronzo a caso gli insegna a muovere le cose e vai indietro nel tempo. No, io gli ho insegnato quello che sapevo fare io. Esatto. Io mi ricordo che quando abbiamo viaggiato nel tempo con Laz, lui mi ha detto che tu eri molto fortunato. Cosa sei fatto? No, vabbè, non è che sono proprio fortunato. Quindi ti volevo chiedere se hai questo potere, se ce l'hai già, che si è manifestato. Sì. Cosa sei fatto? Però non, cioè in realtà non volevo dirvelo perché non so se è una cosa che so che in Italia molti heroes vengono tipo faccia in faccia. Vabbè, dai, facciamo così. Cioè, no, non l'ho detto a nessuno. Facciamo outing tutti assieme. Non dice tu quando sei star solo. No, rega, aspetta. Forse è meglio se ci spostiamo da qua. Va bene. Intanto che magari tu non ce lo, cioè intanto che tu aspetti che ci sia una situazione un po' più safe per dircelo, ti chiedo così per parlare del più del meno se sai qualcosa dei Heroes in Francia. No, in realtà non l'ho detto a nessuno e non so niente. No, di Heroes dico. No, cioè nel senso è come in Francia si sente, so che anche dei telegiornali. Come in Italia vengono diciamo catturati, se scoperti dalla polizia. E quasi tutti. Alcuni vengono solo controllati. Mi ricordo la storia degli Heroes e le Bagnese, un gran macello. Molto probabile. E quindi è meglio che non mi faccio vedere, poi. Beh, più. Potrebbe essere un ottimo luogo dove nascondersi. Ma le penne quindi anche contro gli Heroes. Sì. Decisamente. No, e quindi sì, però cioè da un bel po' che ce l'ho in realtà. Di cosa si tratta? Cioè tipo più di un mese, un paio di mesi. Anche noi. E non sai però che evento è così. Ci abbiamo da una settimana. No, di più. Da inizio settembre. Abbiamo fatto solo una settimana, quella siamo in cui 2 settimane in cui ce l'avevi posati. Ci abbiamo dal 4 settembre. Da 3 settimane ce l'avete. È quasi un mese. Se siamo al 18 settembre, ne abbiamo dal 4 settembre. Come fa a essere? No, era anche questo, abbiamo iniziato anche fine agosto. No, avete iniziato il 30... Non mi fate domande complicate. Allora vuoi giocare a frisbee? Voglio giocare a? Frisbee. Magari adesso. Sì, ma devi venire in Francia a giocare a frisbee. Devi venire in Francia a giocare a frisbee. Il 31 agosto è l'ultimo giorno in vacanza agosto. Perversa. Giulio vuoi giocare a frisbee? 31 agosto abbiamo cominciato. Tantissimo. Sta giocando un po' anche adesso. No, in realtà non è il 18, è il 20... Sta reclutando per la squadra. Sì, e ciao Gini, buonasera. Sì, no, lo so, scusate, non è il 18, è il 25. Che giocano, sei. Ma è Ultimate Frisbee, non è Frisbee e basta. Ricorda per gli europei alle 2 di Vez non è Frisbee e basta, è Ultimate Frisbee. Sì. Non è Ultimate, è Ultimate Frisbee. Allora no. Ultimate. Ultimate. Ultima. Ultima. Sei l'ultima dei frisbee. Dicevo, sì, da un po' più di un mese ce l'ho. Penultima. E io ma non c'è. Penso sia fortuna. Qualcosa tipo di. Siamo una conversione con gli hack. Ma voi cosa potete fare? Va bene. Vez ha la capacità di spostarsi. Un po'... Figo. Sì, no, un esempio. Più Giulio, chi è Kat? Chi è Kat? Kat è... Chi è Kat? Salutali. Ciao. Ciao. È ubriaca. Sì, tipo la mattina. Dei sei ti saluta. Sì. Non guardare me che dei, cioè, non so comunque. Capisce. Ma guarda, vai, saluta. No, non te, gli altri. No, Kat invece ha un altro che di strangolare. Ma avete, aspetta, però avete solo un potere? No, io due, cioè no, tutti e due. All'inizio io ho cominciato mutando, ho iniziato mutando le, perché ho scoperto che tipo il potere che hai puoi, diciamo, ramificarlo in altre cose, sì, simili. Ma io avevo una specie di psichico di Alakazam e Mewtwo. Fico. E lo, no, adesso no, mi sto un po' sperimentando. Sceo cos'ha quello di essere più basso di me adesso? Sceo non ci crederai, ma è un super uomo. Può essere. Dai, no, ha la super mira e poi cos'è il super soldato? Non lo sapete, non l'ho mai usato. No, diciamo che ha la super mira e comunque è molto... Cioè, sì. Basso. È molto basso. E come difetto, come effetto collaterale. Sì, un'altra cosa che ho notato è che... Cioè, di solito succede qualcosa di negativo. A te cosa è successo? Io ho preso 3 proiettili nel petto. Davvero? Cioè. Beh, vabbè, sei ancora vivo. ma perché? Ma ho che scoperto di riuscire fatto? A rimarginare le ferite col natocco. Il solito power play. Io sparo. Non canta niente, power play. Ma ignori anche, immagino. Ci ho provato, però alla fine sparo solo poco. Ricordo ancora quella giornata. In che casino avete fatto? Al casetto d'Avezza. No, eravamo a fare una grigliata dal casetto d'Avezza. C'è stata una specie di mezza di gran rumore, esplosione, che in realtà non sappiamo la provenienza, e ci siamo tutti svegliati con questi poteri al casetto in posizioni sparse nella casa di Vez, e da lì poi siamo in serie di vicissitudini e abbiamo capito che questo era un esperimento di un certo professore che in Italia sembra essere, insomma, una persona potente. Ma solo in Italia? Non lo sappiamo, sicuramente in Italia, però non sappiamo se la Shork sia un'organizzazione che magari tipo piovra tentacoli ovunque all'estero. Idolo. Idra. Hey, Idra. Come Jack. Fatto sta comunque che lo conosce anche Laz. Il professore. Cioè, a me non mi ha detto niente. Cioè, Laz del futuro. No, il Laz del futuro. Del futuro come la cosa. No, noi sappiamo che nel futuro questo professore ha creato con un progetto mutato una sorta di super... Piano però, l'AS io, cioè, sapeva andare un po' avanti nel tempo, ma non tanto. In realtà l'AS è andato, per lui, quando c'è il metro, è andato avanti di 10 anni, no? Cioè, conosciamo anche l'AS. Praticamente tra 10 anni, diciamo che sarebbero stati uccisi tantissimi heroes, tra cui noi, e l'AS è riuscito a farci tornare, ad avvisarci prima, in modo tale che noi nel futuro, cioè portato avanti nel futuro per uccidere il professore. Sì, ma noi siamo morti nel futuro. Che perché... avete ucciso della gente? Sì. Tanto. Io non personalmente. No, noi. Cioè, sì. No, io credo non personalmente. Così. Noi siamo ucciso qualcuno, l'abbiamo fatto sì, quasi sempre. Ho bruciato della gente. Quasi sempre per difenderci. Sceo anche per divertimento. Sei comunque complice. Non ho ucciso nessuno io. Sì, hai lastettato. Ah no, hai colpito per la prima volta. Io, rega, io combatto con un taser e una mazza da baseball, quindi. Vez, ma davvero ti sdoppi? Sì, Salla. Ma è quasi un potere karmico. Mi sembra come se un master stroke mi avesse dato. È andato a caso. Stai calmo. Sì, c'è solo un problema che i miei colori sono nudi, quindi me lo faccio vedere così. Vedi i palmati. Ma che schifo, Vez. Grazie Giulio per questo dettaglio. Sono i piedi, immagino. No, Salla, però per ora sì. Tutte le battute già fatte. Salla, però è giusto che la gente lo sa. Nel futuro, praticamente, noi siamo morti. E questo va bene. Come noi siamo morti? No, allora ci siamo. Praticamente al professore sono rimasti che si oppongono tu. Ema. Laz, Ema. Anche Ema ha dei poteri. Sì. E minchia, troppo. Tutti hanno dei poteri. Ema ha dei poteri. Ah, adesso ti dico il potere di Ema, qual è? Era Miki. No, Salla, dobbiamo cambiare il futuro. Non capisci? È un futuro dove tipo la Miki sta con Ema, cioè è un futuro sbagliato. No, Laz era Laz che stava con Ema. Ti ricordi che arrivava un bambino senza capelli? Ma... Cazzo, non posso sapere chi sono io. Ciao papà! Raccontate. È un mondo dove Eva è stata amici. Vabbè, ma io sono vivo. Cioè, no, è un mondo dove Ema è vivo. E io no. Vabbè, non ho capito però perché siete qui. Neanche io. Non so, cosa è che ha abbiamo fatto... A quanto pare ha avuto ragione, perché tu sei dei nostri. Sono in bagno, sono lì, mi scorreggio. Mi spendiamo in cucina. Grande. Verrà diretta questa. No, ma se tu un po' ci hai riempito comunque. È fuori dalla cucina. In bella diretta. Anzi, un po' ci ha riempito comunque. Tanto sta che questi qua. Che avevamo bisogno di andare fuori dall'Italia. Noi non sappiamo come funziona questa organizzazione, ma più lontane siamo. Perché avevano rapito Yak. Ma nel frattempo. Oddio, ma raga, avete fatto un sacco di roba. Sì, no, non avevano rapito Yak, per quello che ne sappiamo. Forse dovremmo trovare un posto più sicuro dove provare. No, Yak era stato ferito e loro hanno preso spostati. Yak per curarlo. E poi l'hanno buttato in gattabuia. Mentre tu eri lì che giocavi a frisbee. E nel frattempo hanno infiltrato uno dei loro che ha l'abilità di cambiare aspetto. Questa puntata è il riassunto di tutte. Cioè la raga, puntata... comunque quello che so io in Francia è che è meglio se non fate troppo, perché qua controllano parecchio la polizia soprattutto. Sì. Dici in generale o virus? Heroes. Ma come fanno a controllare? No, nel senso, se viene denunciato un Heroes. Io mi sono aperto perché Salla ha i poteri. Boh, perché sì. Cosa vuol dire perché sì? Cioè, come fai ad avere i poteri, Salla? Ah, praticamente io. Ho detto che un mese fa. Più o meno un mese e mezzo fa, due mesi fa. Stai facendo qualcosa di particolare? No, però sono stato abbastanza male. E stavo veramente male. Poi niente, la mattina mi sono svegliato e ho. Non so come dire, tipo, è come se, cioè se delle cose non accadessero per caso, cioè se fossi io a guidarle, non so come dire. Hai provato a giocare alla lotteria? Non così tanto caso. Sarebbe la prima cosa che ho fatto. Tipo, cioè non capisco bene il tuo potere, fondamentalmente. Non so come spiegarti, è come se, diciamo che... Che influenza le persone? No, è come se sapessi... Cosa succede? Sì, cosa fai sta 17. Per succedere. Tipo, adesso tiro un dado e ti dico cosa viene fuori. Cosa viene fuori? Tiro un dado e viene fuori 3 e io tiro un dado e dico viene fuori 3. Che culo. Tira allora. Ho tirato e è venuto fuori. Ritira. Non capisco però perché vi siete portati dei dadi in questo posto. Abbiamo sempre dei dadi, ci conosce. Wow, cioè non possiamo più fondamentalmente giocare a giochi di vabbè, no vabbè, ho scoperto che no, la cosa carina che, per cui mi sono divertito è che ho scoperto che questa roba è tipo come se fosse una magia, no? E quindi sì. può essere usata per tante cose. Fico. Tipo, non so se. Se. Lo usi anche nei tuoi esperimenti, tipo. Puoi ma scoprire. Qualsiasi cosa, se per esempio qualcuno mi tira qualcosa, io posso far sì che qualcosa gli sbatta contro, oppure che possa sapere dove va e evitarlo. Capito? Sembra una figata. Cosa fa Salla con il potere? Decide, cioè fa il master. Il potere è comando casualità. Casualità. Comandare capito. Decide cosa succede nella storia è abbastanza d'altronde essendo al massimo sono io che decido questo capire controllo casualità Salla di tu non sai la no cioè sa le cose che cioè fa accadere un comando po' comando che le cose che sto storia della vita di Vez quindi ti chiedo Salla se tu per caso carattere se per caso sai hai fatto combaciare la sbocciata del tuo potere con qualche evento no l'unica cosa se tipo combacia col fatto giorno male. No, però non combacia col giorno in cui abbiamo avuto le no molto prima molto prima un mese prima enorme cosa stai dicendo? Parlerà di lui ma chi? Non vedo più niente, è enorme. Che problemi ha? Vabbè, Arci, saluta la telecamera. Arci, c'ha scritto Arci. Quindi sì. Ah, passate in bagno. Sì, era davanti alla telecamera. In quel momento, esatto. Ah, sì, perché sta alzato. Vabbè, comunque volevo dire che... No, dicevo che appunto... Tarto? Tu mi piace a Tarto. Aspetta, sono l'unica che mi ricordo. E anche è enorme. È enorme. Cos'è? Siamo noi. È orribile sentire le nostre voci di rimando. Comunque dicevo. Ma qui ecco questo RipGDR che sta condividendo noi. Oh, non siete voi. Siamo noi, sì. Chi è che ha usato RipGDR? Non c'è la condivisione comune. RipGDR che te è il palestra. Ma anche te, no, è il greco, sta scritto insieme. Sarà qualcuno. Sì, ma RipGDR 56 minuti, 50, un'ora fa, ha condiviso il video di te con Samuel. Sì, non l'ho fatto. L'ho fatto. Era quello che ha commentato. Guarda, ti sei sto. Vabbè, raga, non è che la menti di Matteo Achilli, eh? Non vabbè, comunque Matteo? Sia, sì, allora, sì. L'ideale. Ma che sì, sì, allora, allora, allora fermi. La scelta redazionale è che ci sia un indirizzo comune a cui fare riferimento per tutti e due i gruppi. Ah, questo sono la realtà, scusa. Sì. Per quello abbiamo fatto quell'altro. È un canale YouTube in cui speriamo che un giorno Vez possa condividere le dirette. Vabbè, io ho detto speriamo che un giorno. Ho superato 2000 like nel like, 2000 visualizzazioni nel e i poliziotti stuprano. Ma ci voglio ma ci voglio giocare anch'io sto gioco. Che potere potrebbe avere? Bello. Ma quindi lei sta sentendo la storia? In questo momento non ho un cazzo da fare, quindi puoi salutare. Sta. Comunque ciao. Ciao. Ciao. Sono troppo grosso. Io non riesco a girare. Se si, è che se si gira lui, si gira tutta la camera. Oh, beh. Comunque, stavo dicendo che. No, dicevo, la cosa interessante che ho visto è che molte volte. Cioè, nel senso, ho scoperto che molte cose che faccio sono collegate. Tipo, questo potere qua è collegato a altre cose che posso fare. Per esempio, controllare il tempo che mi ha insegnato l'AS ha molte cose in comune con quello che faccio. L'unica cosa è che spesso più uso questo potere più succedono delle sfighe. Tipo sfighe. Tipo un esempio di sfighe, viene a piovere o che arriviamo noi a Marsiglia, metti buco, esatto, metti buco una gomma della macchina, capito? Sarà... è come se comandando il caso da una parte ci fosse un karma, cioè, che il karma che rimane indietro. E una cosa, Salva, ma tu in questo periodo sei stato contattato da professori, cose strane? Tutta la tua vita perseguito da normalmente con colpi di botte di culo e sfighe. Sì, ma non lo uso tanto in pubblico. No, però sono delle cose fighe, tipo appunto quella cosa lì che... Che vuol farti dare un numero, i numeri. No, però, cioè, posso comunque... Se per esempio tu provi a tirarmi qualcosa, posso... Per esempio non sbagliare le cose in laboratorio. Non le sbaglio. Non mi serve un potere per quello. Altro che se usa questo potere, poi gli sa che gli arriveranno delle sfighe per altre cose che magari. Sì, cioè dipende, evitare. Bisogna vedere. Beh, come immagino usano. Che sia proporzionata, cioè. Eh no, lui ne fa una cosa in laboratorio e poi gli viene una malattia gravissima. E poi muore. Vabbè, devono rovesciare l'acqua dal bicchiere. Le cade un meteorite. Cioè, tipo, adesso l'ha fatto con un dado, non è che. Però scusate, adesso. Magari perderà 5 centesimi. Cosa pensate di fare? Boh. Non so neanche perché siamo qui. Devi vezzere di incasinare la tua vita in modo che tu venga. Niente, volevamo portarti idea. Volevamo immergerti nella stessa merda che immergerti noi. Neanche questa mi sembra un'ottima idea. Venga a parte, abbiamo bisogno d'aiuto. Lo so, ma io cazzo posso fare. Ci puoi aiutare magari a nasconderci per un piccolo periodo. Casa mia hai vista, è un buco. Lo so, non ci sta. Però magari noi capisci, per esempio. Siete tanti, se fossero due persone, magari. No, però noi in questo momento. Cioè, tu non so, magari potresti conoscere qualcuno che a casa, che può magari ha una casa sfitta, ci può ospitare per un periodo, oppure anche solo banalmente. Se prendiamo una casa per qualche potreste giorno. Prendere una, sì, una, un appartamento. Però usando magari il tuo account, capito? Sì, vabbè, quello non c'è problema. Sì, potete fare così. Però cioè, non so se siete venuti qua io, però non è che posso. No, dobbiamo anche noi capire cosa fare, però intanto ci siamo allontanati da lì. Principalmente dobbiamo far calmare l'acqua, nel senso che abbiamo appena finito un assalto in una base di questi paramilitari che a momenti ci hanno... Come, scusa? Ci hanno crivellato di colpi, anzi a lui lo hanno crivellato di colpi. Mi sembra stia piuttosto bene. Bella cicatrice. Quindi... perché fortunatamente ho rimarginato le ferite. Beh, power play. Esatto. Però la cosa che appunto siamo riusciti a liberare Yak e a riprendere. No, perché stiamo competendo per il GDR. Parla da solo adesso. Il GDR risponde con Tyson. E poi metti mi piace con Andrea Giacomo. Poi fa altri contatti, domani ne fa un altro che si chiama, che cazzo ne so, GDR libero. Sì, quindi ci servirebbe un appoggio, poi in realtà dopo un po' possiamo anche ripartire. Sì, no, il tempo di far calmare l'acqua. No, secondo me potete stare anche qua, cioè nel senso io però non posso ospitarvi perché siete tanti. No, infatti, immagina. E comunque state attenti perché neanche qua è una roba molto... Noi non siamo qua per far casini, noi siamo qua per... al contrario, per nascondere. 23 commenti? Sì, sono tutte le cugine di me. 22 GFG. Vabbè, potresti evitare di microfonare l'audio. Non volevo. Però lo fa. È che per leggere i commenti mi fa partire per forza. Sì, che non togli l'audio. Tipo... No, se fai solo leggi i commenti. Se clicco su con lei, cioè leggi i commenti. Come, scusa? Ma chi è Rip GDR? Ma perché? Perché non mi ricordo che stavo commentando Jedi GDR. 17 commenti, clicco sui 17 commenti. No, il palestra nel senso riferito a te. Sì, no, l'ha scritto tu. Sì. Non Edo. No. E non sapevi di averlo scritto tu. No, perché io vedevo. Io vedevo che mi dava. Ma l'abbiamo perso. Il commento Taiko. Data in vacca. E il commento Rip GDR, capito? Insieme, ma io vedo 24 commenti e invece no, a quanto pare solo il GDR si commentava. Vabbè, stai calmo comunque, Bezzi. Dicevo, non c'è problema, ditemi. Cioè, oggi anche domenica non devo neanche fare un cazzo, anzi già che siamo un po' vicino al laboratorio, magari non so, tu puoi conoscere qualcuno che ci può dare un'ospitalità qua o no? Siete veramente tanti. Siete sei? Prendiamo un appartamento. Prendete un appartamento. Se volete, sì, posso dare un account io. Ha pure i soldi, volete? No, non li vogliamo i soldi, era una mia riflessione extra. Dobbiamo pensarci, rega. Dobbiamo metterci a tavolino. E niente. Io se posso aiutarvi, però, non c'è nel senso. Non vi aspettate. Rega, niente, ci mettiamo a sbagliare. Ma non ho capito, sto professore qua non potete in alcun modo staccarvi da lui, separarvi da lui. Sì, possiamo fuggire da lui. Possiamo uccidere. Il problema è che lui ha anche comunque dei servitori che hanno dei poteri parecchio molesti. Sono molto più forti, cioè sono. Cioè, per dirti all'inizio. Ma voi siete tanti. Sì, ma lui all'inizio è riuscito per dire a fare una sorta di mezzo controllo mentale di tutta la polizia di Bologna. Cioè la sua è un'organizzazione. In modo tale grossa, che non risultassimo mai stati tanti. E non avete nessun amico. Abbiamo uno che si chiama Void. Sono gli amici, sono qui. È vestito come te nel video mentre credeva a Marsiglia. Era l'unico, questo Void. Questo Void che però... Come volendo che non c'è stile, c'è. Lo contattavamo tramite un infiltrato del nostro gruppo, che era uno che si fingeva Yak. Quindi in realtà non sappiamo molto come... Sarebbe un po' contorto. Diciamo che non sappiamo come contattarlo. E un altro essere scritto da qualche... E un altro di cui ci fidiamo è un altro che è una specie di mezzo tutto fare, tecnologico, informatico, che... Figo. È uno shopper. C'è una tassa. Esatto, lui lo paghi e ti dà. Quello che sa l'IVA non lo sa nessuno. Vabbè. Tu cioè non conosci nulla su di Heroes qui, quindi non sai nessuno che. No, io so che. No, non so nessuno. Cioè nessuno ti ha contattato. Ma non sai neanche, okay. Visto che cioè, non sai se magari qualcuno nell'ambito di ricercatori. Esatto, nei tuoi ambienti. In qualcosa sui supereroi, sui superpoteri. C'è il tuo all'università, sì, per esempio. Ci possono usare come cavi. So che c'è. Guarda quante possibilità che gli apre per nuove avventure. So che perché quando sono stato all'incontro per l'esercito, so che loro. So che lo e la forza. So che loro hanno un paio di ricerche su Heroes, però so anche che di solito vengono arrestati e controllati. Concedo entrare. Io punterei su Yon Lee. C'è un tizio che mi ha chiamato, si chiama professore, gli ho detto che potevo, no. Momento di panico. No, gli avevano già chiesto. Pronto, prof? Gli ho qua davanti. Il prof, lui il prof. Ah, io che c'è il professore. Ah. Il professore. Ah, io non la chiamo professore. E bucio di culo. Magari ci possiamo poggiare un attimo da te. Questo il tempo che ci scoprono, ecco. Perché non identificano a casa tua. Beh, dov'è? In questo momento speriamo di non essere seguiti. Non so, anche magari hanno dei mezzi. Vabbè, anche solo per connetterci a internet, magari lui trova qualcosa di utile. Vai, ho vinto. Come uccidere, come salvarsi la vita contro il professore? Secondo me potremmo trovare una casa, intanto un appartamento. Sì, per qualche giorno. Sì, ma quei prezzi che hanno a Marsiglia, che non so. No, appartamento tipo quelli... Che cazzo si chiama? Airbnb. Sì, al tipo. Bisognerebbe trovare qua, però sì, cominciamo, cioè purtroppo non è che abbiamo tutti questi gran soldi. No, però pazzo, è vero. Se io e miei gli dico che sono in vacanza con voi, Vabbè, qualcosa vi posso anche prestare io. Aspetta che paga pantaloni. No, tecnicamente no, io avrei anche, ma però a livello di gioco i soldi che ho qua. No, qualcosa se volete vi posso prestare. Io chiamo e dico magari che sono in una vacanza, non di qualche giorno, e che... Se mi posso fare una ricarica, magari mi è sopravvagata qualcosa, mi dà. Mi ha miliardi di euro, però. Vabbè, questo professore può rintracciare questo tipo di transazioni. Capito? Il professore può rintracciare questo tipo di transazioni. Chi lo sa. Beh, no, se lo rifanno un versamento. Chi lo sa. Vabbè, però tu quando li vai a riprendere. Quello è anche la cosa non va a riprendere. E non ho capito. Cioè, ho capito che questo qua. Al banco. Vabbè, guardiamo i prezzi. Un appartamento qua per 3 giorni. Quando tu la strisci da qualche parte, questa cosa sei è master, registrata. Devi fare il tuo lavoro. Il rischio è che il professore possa avere accesso a questo tipo di informazioni. Allora prendiamo una banca per avere i contanti. Però se troviamo uno che fa certi bonifici, ad esempio per affittare casa. Dai, faccio accampare da te. Bonifico e non è state a casa mia, siete 6 persone. Ci accampiamo. Sì, perché minchia. Lo fai online. Beh, l'emergenza non lo faresti per lui? No. Sì che lo faresti, no, dai. No, mai nella vita. Sì, quello sì. Cioè, siamo per morire. No, se ritiro cose. Quando paghi in un negozio. Giù è ferito. Tu dico giù. Intanto appoggiatevi da me. Grazie. Non so come ci stiamo, ma... Gente che entra, gente che esce. Ma solo questo minchia di cazzo. Non so come cazzo possiamo starci, ma vabbè. Al chicco d'oro. Va bene, e quindi niente. L'unica cosa, facciamo una spesa, qualcosa. Sì. Sì. Viveri. Allora si mangia di merda. Toglicelo questo vivero. Togliete i soldi. Cani. Almeno offrite voi. No, comunque dai, fate gli scherzi, visto che io ce l'ho i contatti mamma e papà. Posso farla a chiamare? Il problema non è quello. No, il problema non è. Cioè, nel senso, il problema è che in questo momento è meglio se cerchiamo di non farci proprio rintracciare. Cioè, quindi se fai una transazione tipo anche solo ridire dei soldi. Ma no, ma intanto me li faccio mettere da loro, li fanno nel bonifico, quindi nessuno lo viene a vedere. Vabbè. Intanto ce li ho lì. Sì. In caso di emergenza, invece che avere 10 euro, se sì. Nel caso servizio ce li ho, non è che mi fanno sì. Male. Vabbè, io però non so a livello di gioco come funziona effettivamente. Cosa? Nel senso che, cioè, tecnicamente anch'io magari ho il banco, ma te potrei ritirare, però a livello di gioco io ho questi soldi qua. No, usa i contatti. Ah, in questo senso lì. Si fa no, va bene, va bene. Ci sta. Quanto spendiamo? E scrivo con me col cellulare di Vez, a sto punto, no? Facciamo una cassa comune? Sì, forse voi ci sta che vi prendiate un... Forse... No, se ci pensiamo. Sì, tanto puoi usare tanto il mio. Tanto puoi usare il mio. Scrivo a mia madre e mio padre e dico che... Boh, sparati 600 euro. Ah, anche meno. Sparati 600 euro. Io ho 190. Togliti i contatti. La prima regola del GDR, se il master ti dà qualcosa, prendilo. Quindi il contatto non funziona, una volta che lo uso lo brucio. Sì, devi... Poi devo segnare... Segnati che l'hai usato. Cioè, in teoria se tu gli fai un favore, lo ripigli, tipo qualcosa del genere. Sì, bisogna vedere. Non cambio questa mezza. No, sì, ma sono 600 euro che non puoi usare. Finché non ritiri. Certo, allora. Ok. Sì, sì, sì. E... Ah, perché io gli altri ce l'ho in contanti? Sì. Sì. Sì, dai, rega, gira con 500 euro in contanti. Vabbè, oh, il gioco funziona così. Non rompere il cazzo. No, non ce li hai in contatto. Non puoi ritirare neanche quelli. Era per capire. Capito? Cat è power player, c'ha tre fucili. Gira sempre con tre fucili. In realtà adesso non ha un cazzo. Esatto. È vero, non è che il mio. No, no, torniamo indietro. C'è il mio fucile d'assalto. Sì, sì, andiamo qua. Vabbè, raga, allora io suggerirei di fare una spesa. Toglietevi 5 euro a testa. In Francia? No, oh, va benissimo. Una spesa. E stasera magari andiamo in centro a sto punto. Ah, dice girare. Ah, sì, sì. Come cazzo faccio a tenervi in casa 6 persone in un buco di mare? Ah, no, certo. Cioè, nel centro fa cosa? A mangiare, a... Ah, ok. Far casino. Far casino. E a fare quell'incontro che facciamo prima di andare a dormire. Avrei bisogno prima di darmi una rinfrescata. Buona, Giulio. Ah, Giulio, abusiamo. Cazzo. Abusiamo anche. Cioè, già ne abbiamo ti vestiti e ti abbiamo sono curato. Sono incastrato di sangue. Ti abbiamo vestiti, una nuova casa. Fa vissuto, fa vintage, fa virile. Ma certo, uno gira giusto per strada incrostato di sangue. Ma no, ma non sei tuo. È tuo. Sarai pulito di sangue. È tuo, no, sangue. Potrei girare dello scorso. Non particolarmente. Non mi pulisco per gli autogrill. A parte quello. È una sporca. Giulio, il sangue è tuo. No, ho capito che il mio non dà fastidio a me. Sono contento per il vostro benessere. Giulio, la gente vuole tenere dentro dei pitroni. Mi piace tenerlo un po' più esposto e secco sulla pelle. Sarà un po' scelto. Poi se c'è da fare un'altra cura. Quanto ti manca ancora? Che cazzo di ebreo. Che barbone. Che barbone. Ho 30 punti ferita al busto. Io dico, ma dai Giulio che passa. 30 punti ferita. Quando siamo lì nel... Che si traduce, sono messo malissimo al busto. Nonostante il sangue abbia smesso. Quando facciamo la nostra dimostrazione, chi ce l'ha più lungo con i poteri. Ah sì, ti posso faccio far vedere il potere se vuoi. No, grazie. Faccio e vedere mi sdoppio. Tocco il busto di Giulio e gli curo questo bene è rock and roll. 50 punti. La cosa bella è che gli posso fare quello che voglio. Fai un caffè a salla. E il però mio ti fa un caffè. Ecco, 10. Devi tirare il dado. Ormai no, adesso no. No, adesso no, la difetto. Se no l'altra volta poi arrivo molto prima. No, ma divertiti di più, tipo tocca sempre la faccia a Salla. Il mio problema comincia a farli così con la mano. Però si può però fare un po' fatica. Stasera io uso il mio e andrei a letto presto perché siamo abbastanza provati. Vabbè, sì, ci sta. Però ho letto. Ah, è vero, cazzo, tra l'altro non abbiamo potuto neanche... Non abbiamo cercato... Tipo cazzo. Dormite per terra. No, tu ci vuoi far fare lo sconto, ma noi siamo a zero, cazzo, ci vuoi far... Quello che vuoi fare. No, bastardo. Quale sconto? Sconto. No, vabbè, secondo me ci sta che prendete una casa per il giorno dopo. Sì. E pagate... Prendiamo per due o tre giorni. Un mese. Un mese non abbiamo i soldi. Un mese no. E poi dobbiamo tenerci quelli che servivano per il ritorno. Perché dopo torniamo? Ma adesso ne parliamo. Vedremo poi. Poi. In teoria no. O almeno io voglio tornare, poi ognuno fa quello che vuole. Allora cambia compagnia. Perché non sono morto dentro il sole? Sala, mi hai promesso che mi uccidevi. Volevo morire. 10 euro l'uno, professore. Oh, okay. Io volevo morire, Sala. Oh, vabbè, comunque, boh, pagate 20 euro a notte, dai, non mi rompete il cazzo. A testa, 60 euro. Sì, a testa. 20 euro, quando dice 20, dove siamo? Nel tombino di Marsiglia. Quelle abbiamo preso per 3 giorni. No, una casa, è un appartamento. È strettino, però c'è stato. Vabbè, importante. Costa davvero 20 euro a notte? Cioè, pago di meno stare a casa mia? Costare Airbnb. Sì, certo che paghi meno a stare a casa tua, vale meno di casa. No, hai capito, pago di meno che a stare a casa mia. Beh, costa sicuramente più che un affitto. Perché quando sono venuti qui Federica e i suoi, ha preso una casa in centro, €600, ed erano 50 appunto. Euro, e erano in qua. 600 al mese, non è un affitto. Cioè, però da solo. Potrebbe essere anche di più. Se condividi casa tua casa, con altra gente paghi anche molto meno. Per generale, per 3 giorni. Ah, sì. Ok, sì. Perché noi paghiamo di fatto 100 a notte. Okay. Però è una casa da 5 persone, no? Sì, però è strettina, tipo questa casa qua. Magari vi sbarcate sui divani, due dormono in camera. Ah, non è che 5 posti letto. No, magari è un po' fuori, non so. Quanto è, quindi 20? 20. Cioè 20, 60 euro. Ah no, ma lì tu abbiamo tutte le spese di IAC ancora da sobbarcarci, eh? Beh, ovviamente. Quindi ci sono i 5 della spesa. Per ospitarlo tu. Ci sono i 5 della spesa di Iac. Iac lo ospito io. Iac in casa te. Iac lo tengo in casa io e lo rimando a casa. Così ah, abbiamo fatto il PNG. Ma soldi a show, però, rega. Quanto dura un clone tuo? 6 minuti. Solo? Sì, solo Arci. Scusa se il mio potere non è migliore del tuo. Così potevi lasciarci un best nudo in casa di Salla e per 6 minuti lo posso fare, sì, no, poi esatto. Io lo ammazzo e gli do punti fatica, ma dopo lo ammazzeresti, si guarda solo un po' inquietato, magari lo vesto, magari lo uccido, magari mando indietro il tempo, lo uccideresti magari. Allora ci sono e poi lo uccido di nuovo. No, aspetta, facciamo un attimo un recap per i soldi che do dagli Arasceo. 60, i mesi del viaggio 5, 85, poi più l'autostrada 85, più la strada autostrada di 85, 77, scusatemi, 60 di cosa sono? Le notte, 20 alla notte, 3 notti, 390. Ok, quindi cosa fate? Riposate per 2 notti. Quindi cosa dobbiamo togliere noi? Sallo 60 anche noi? Sì. E quindi recuperate. Ma quelli di Yak? Ah no, Yak 10 punti ferita ogni locazione e tutti i punti fatica. Sì, la sfiga di tutto. Dipende cosa fate durante il giorno. Niente. Recupero assolutamente niente. Allora recuperate 2 punti psiche tranne Arci, che ne recupera uno solo. Pronto? Psionica. Non so, dovrei essere a 5, mi sa. Anch'io sono a 5. E Salla continua a essere full di tutto. Chissà. Ah, sì? Recuperiamo 20 punti in totale. 10 a notte in ogni locazione. Oh, non sono più sotto. Quindi stress, 20. Distratto o immobilizzato. 20, sì. Hai 5 euro della spesa di Jack? Me li devo togliere quelli anch'io. Ah, Giulio! Chi sono 5? Sì. Una cos'è? Ci dà la spesa di Iac. Uno stress, no? Giulio! Mi è venuto. Cosa, sto scherzando. Non sei qualche cosa. Beh, mangia la salve, Franco. Tanto non puoi, esattamente, mangiare un cazzo, Iac. Giulio, scopri, dimmi. Abbiamo stabilito una parola d'ordine. Con chi lo stai dicendo? A te. Sì, per sapere se siamo veramente noi. Ma siamo sicuri che Giulio siete veramente voi. Perché non dovreste essere veramente voi? Perché Yak, per esempio, non lo era. Ah. Cioè c'è uno che è Yak. Sì. Però sì. Disgustoso. C'è uno che sa prendere le forme. Almeno ha preso la forma di Yak e ci ha portato in trappola. Vabbè, ma non, magari non ha i poteri di Yak. Beh, lì non lo sappiamo, però sicuramente... Ha sicuramente dei poteri molto molto potenti. Sì. Sicuramente sa prendere evidentemente le forme. E teletrasportarsi. E teletrasportarsi. Minchia. E qual è la parola d'ordine? Allora, se uno di noi ha il dubbio, dice destrutturato, e l'altro deve rispondere Nababbo destrutturato. Sì, mi sembra un po' banale. No, e la mano così. Beh. Nababbo destrutturato. Non trovo più dove cazzo sono le malattie. Sì, disturbo mentale. Beh, sì, non deve essere una roba troppo complicata. Sì, sì. Salla, io ti prendo il... Hai notato che ci metti parecchio a dormire, ad addormentarti. Giulio. Sì. E ti do la mano di Danico. No, grazie. Come vuoi scrivere che hai un disturbo del sonno medio? Perché hai un potere particolare? No, perché ha usato psiche a Amato. Perché psiche? Amato. Non stai giocando con le abruzzesi o... Che l'altra volta per cercare di salvarsi ho usato molta psiche. No, Sala, io volevo prendere il potere, quello dell'aumentare la psiche. Sonno medio? Che è cumulabile. Sì. E quindi lo volevo ripigliare. Ok. Lo faccio adesso perché se no mi scordo. Vai. 2. Come al solito. Che quanta cazzo di psiche hai? E diciamo che ora volete finire? Sì, io non farei cosa questo. A che ora volete chiudere? Cioè, dipende come si è messo con la storia, se c'è una cosa che si può fare a non tempo. Troppo. Possiamo anche chiuderla qua se volete. Ma se c'è qualcosa da farci fare, facciamo. Sì, un incontrino in centro. Se è una cosa che non dura 6 anni, giusto, sì. Per dipende quando siete veloci. Per farci conoscere anche dalla gendarmeria. Esatto. Va bene, Allora, il terzo giorno, cioè il secondo... No, sì, il terzo no. giorno, esatto. Tre notti. E Giulio resuscita. Oh. Amen. E decidete, finalmente, di fare un giro in centro. Però ho messo manino. Non sto a, sto a tampinare carte. Come sei messo Giulio con l'ETF al busto? 100 su 140, la gamba... Canta. Destra, 60 su 100. Gamba canta. È sera, andate in un bar e poi per tornare a casa però, perché i mezzi, dovete tornare a piedi. Qua. Sei anche tu però? Siamo, ci sono anch'io, non, gli unici che non ci sono sono Yak e basta, no, c'è. Perché Yak non c'è? Yak è un cazzo da solo, ma si è... Yak è rimasto a casa perché non aveva più soldi e si sentiva depresso e basta, no, raga, no, non posso uscire. State camminando da soli. Shio c'è con noi? E siete dalle parti dello stadio. A un certo punto sentite All'Akbar. Guardate col tizio in francese. Io ce l'ho francese tra le mie abilità. Anch'io ce l'ho. Tirate bingo. Cosa abbiamo? Un di 8, no? E... no, anzi no tiratemi mente di 6. Ma come? Sicuramente. Sì. 5. 3. Sentite le voci di tipo dei tizi dietro di voi che dicono qualcosa tipo: ah, guardate quel tizio lì davanti. Guardate quel nanetto. Adesso lo seguiamo. Continuate a camminare e quelle voci continuate a seguirle. A un certo punto sentite: per fortuna abbiamo chiamato la polizia. Quel mutante di merda. Ma li vediamo sì, qua dietro noi? Sì. Cioè sono un po' distanti, però li sentite. Minchia. Ah, ma io faccio presente agli altri sta cosa. Potremmo essere nel merda. Quanti sono, scusami? Okay, ma ecco uscire. Perché c'era Shio con noi. Ragazzi, sono questi. Falso. Ragazzi, sono... l'avete sentito? Ci sono sti quattro dietro che vi stanno, cioè, ci stanno seguendo. Mi sa che hanno visto Shio e hanno visto. Hanno detto che hanno chiamato la polizia, raga. Siamo nella merda anche qua. Giusto, basta. Uccidiamoli tutti. Stavo ce la fanno andare da casa. Secondo me. Oh, perché se o scappiamo oppure. Perché non proviamo a parlare con sta gente, magari convincerli diciamo che non è, è semplicemente un po' deforme. No. Allora, esatto. E mi giro. E in francese. Proviamo a parlare in inglese. Beh, non lo so, io lo so meglio del francese. Beh, lo so. Vabbè, il punto è loro e quanto lo sanno bene loro l'inglese. No, infatti, e appunto ti metteva anche in una posizione di vantaggio. Vai, prova a parlarci. Dico, mi giro. Sì, ragazzi, no, possiamo scappare, cioè. Togliamo. Ma se chiamiamo magari loro dopo riusciamo a farli chiamare la polizia, esatto, non mi sembrava di capire che l'avessero già chiamato. Possono richiamare e dire no, si è sbagliato. Magari avete sentito male. Magari hanno detto stiamo per chiamare, non lo so. Esatto. Io non ho capito bene. Vabbè, io dico scusatemi, ho sentito che... Vedi che questi qua ti guardano e fanno, ah, stranieri. Italiani. Io E poi fai quel momento in cui realizzi che alla fine avere i poteri ti devi anche usare. Ma sentite che ti chiamato la polizia, le avete fatto bene. Sono quattro persone, sono quattro ragazzi, no, tipo sì. Dico... ragazzi, due sono di colore, due no. E anche francese. Beh, in bianco e nero. Marsiglia. E vi guardano tipo sogghignando, tipo. Io siete faccio stranieri. Un po' la faccia tipo triste, come se mi stringesse il cuore delle loro risate, no? Come se mi sentissi umiliato. E dico, scusate, ho sentito un po' quello che avete detto e il mio amico magari fosse un mutante, ma lui ha un problema alle ossa, ha avuto un tumore quando era piccolino, insomma, l'hanno dovuto operare. Sì, sì, non è che potete venire qua in Francia e raccontarti la sua sociale. No, gli dico, insomma, di non prenderlo in giro. Sei. Cazzo. Ah, vabbè. Noi volevamo chiamare la polizia, non so. Però secondo me avete qualcosa di losco. Qua, se volete vederlo, poveretto ha avuto un'operazione grave alla gamba, ma insomma non, Non credo che lui sia felice di farmela vedere, ma ogni volta lui ovviamente ci soffre questa cosa. Il show non sta capendo un cazzo, tipo. E vabbè, nessuno di noi. No, a parte che io, se anche gli fai vedere semplicemente anche se ti alzi il pantalone, loro vedono che la gamba è una protesi. Se la toccano, sì. Quindi nel senso, volendo, cioè se proprio hanno questo. Sì. Cioè dico, se non mi credo deve controllare, però è una cosa che lo rende. Vedi che loro guardano curiosi, toccano. E vediamo se scesso in casa. No, vabbè. Sì, inizio tipo. No, vabbè, gli ammazzerebbe tutti. Visto che si è incazzato per un punto meno nella sua vita. Toccano e fanno, ah vabbè, scusa, non sapevo. Vabbè. Sì, purtroppo è già capitato. E quindi che cazzo siete venuti a fare a Marsiglia però? Turisti. Vacanza. Turisti in vacanza. Sì. Ah, i poliziotti, ma... No, no. Sì. È anche un po' una pentola di indicazzi vostri. Vabbè, allora buona vacanza. Grazie, buona serata. Grazie. Buonasera. E vedi che loro si girano e se ne vanno. Basta, niente incontro. Che hai fiamme. No, ci sta. Anzi, abbiamo risolto magistralmente e... una volta tanto. E niente, faccio figuarci. Però sono francesi, usiamo il nostro potere. E niente, tornate in camera. Niente, adesso lui usa il suo potere per tornare indietro nel tempo a far girare il dado. E lo faccio finché non fa uno. No, ci sta. E tornate a casa. E basta, andare a dormire e chiudiamo qua la 14ª sessione di Urban Heroes. Mi spiace, non pensavo che non fosse. No, hai fatto bene. Hai fatto bene anche perché non posso incenerire quattro ragazze per strada. Beh, i neri sono anche abituati a sentire. Ci associamo dagli stati. Perché? No, cioè, sono stati schiavi, ma non è che. Pensavo di dicendo qualcosa tipo, perché non sono mica ebrei. Ok, bello che l'hai detto comunque, l'ho detto perché stato. Io non abbia mai detto nulla di strano. Va bene, niente, quindi chiudiamo qua. Triste, cioè non avevi una cosa di riserva. No, è questa la cosa di riserva, è finita la sessione. Togliete gli scontri. No, infatti ci stava. Pensavo che lui fosse un piano di riserva. No, secondo me io apprezzo queste cose. Cioè, ma la polizia. Sì, credevo arrivasse sì, allora, la polizia. Allora, la polizia anche in Francia. Vabbè, ci sta, così la prossima volta puoi farci entrare la stessa segreta dei francesi. Allora, vi do 4 punti di esperienza a testa, tranne ad Arci che ne prende 6. E con questi 10 ne prendi uno per la simpatia. Vabbè, Vez non è molto forte nella scheda, metto altre esperienze. Sono al 7° livello. No, sono a livello, cos'è? Voi siete al 4, no? Con l'80 sono con 80. Io ho 80 punti esperienza. Anch'io adesso. E il livello è 3. No, credo sia al 4 o il 5. Il terzo era 70 qualcosa. Non è il 4, 80. A 75 succedeva qualcosa, perché io mi ricordo che non potevo prenderlo perché avevo 74. Quindi non mi ricordo se era il terzo potere. No, puoi prendere, sì, forse o maggiore o il terzo potere. No, medio. Cioè medio o il terzo potere. Non mi ricordo. Secondo me puoi prendere 3 poteri però con 80. Vai, Vez, scorri. Non più esperienza, 166, Vez. Cosa? Pagina 166. Ti parti dalla ventola, gira un PDF. Porca troia. 75 è il quarto livello. Quarto livello e hai 3 poteri, no? No, 3 poteri, numero poteri, 3 poteri al 75. Ecco, infatti io ho 3 poteri. Oh! Però non puoi avere, poi ne puoi aumentare il grado. Sì, maggiore, meglio. Però ti aumenta anche il difetto. Sì, sì. Io non lo so, in realtà sono 3 ranghi di abilità 2. Buia. No. Medio, io sono all'83. Io non ho ancora verificato. Ah, non mi ricordo sta cosa. Tu per aumentare il grado medio. Io ne ho più di 80 comunque in realtà. Salla. Per aumentare il grado medio. Un po' di più. O quanti? Variamo. 90. Salla, per aumentare il grado medio. Vabbè, non sono tanti di più. Per aumentare il grado medio. poi devo farlo per forza nel potere primario o posso farlo anche nel secondario? No, devi farlo prima nel primario e poi nel secondario. Per forza? Sì, non può essere più alto il secondario. C'è un talento che permette? No. C'è un talento che ti permette, ma solo mi sa per i genetici. Sì. Io ho un potere che ancora non so di avere. No. Io ne ho tre. No, però scusate, perché ho quello lì, deflettere. Le cose dell'exp non ha senso che tu non sappia di averlo, scusami. No, lui sa di averlo, non il giocatore, cioè non il personaggio, ma il giocatore. Io il giocatore, cioè io. So che non è mai stato ferito. Il mio personaggio non lo sa. Non è mai stato ferito, quindi. Non si è mai attivato. Iniziamo. Fuoco! sì, perché i magici possono imparare i poteri dagli altri magici. Wow. Per cui io ho copiato quello di. No, io ho copiato quello di Laz. E poi ho deflettere e comando casualità. Magico cos'è? Tipo quello di Giulio? Sì, ma senza l'oggetto. Magico è tipo quello di Yak. Cioè una formula. Mentre io devo avere l'oggetto. Potrebbe essere leggerla. Tipo il più OP, volete. No, sono io il più OP. Strano. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai tirato o hai scelto? No, ho tirato. Due volte però. La prima volta ne avevo. No, la prima volta ne avevo uno che aveva poco senso sulla storia. Avevo tipo. Era più forte in realtà. Perché era. No, è vero, è molto più forte. Questo qua può cambiare un tiro. Praticamente l'effetto di questo qua minore è ritiri un dado, mi pare. Quell'altro era. Praticamente. Fatica, mi pare. Che dà un punto fatica al nemico. Per cui è molto forte. Ma insomma. Questo ritiri un dado e l'altro dopo accumula sfortuna, quindi può ritirare un dado. È molto più figo del dado. Più figo sì, ma meno forte. Punto fatica, scusami, quanti ne hai? No, è dopo no, prima fa quello, poi tipo no, prima intralcia, cioè tipo rallenta il movimento, il secondo immobilizza e rallenta, no, era abbastanza forte. È tipo una specie di snare. Sì, è tipo lo rallenta, tipo non so come cazzo si chiama. Sì, un CC. Cercalo, tipo fatica. No, il primo era abbastanza forte, però stava poco con la storia. Puoi togliere la diretta però invece. Beh, facciamo un selfie in diretta. Vedo Giulio molto contento di questo. Va bene, direi che puoi chiudere, così si conclude l'episodio in cui mi avete fatto giocare, maiali. Oh, finalmente abbiamo inserito il digno e potremo fare un'immagine col digno. Cani. Metterò quella che ti ho mandato, potremmo mettere quella che ti ho mandato. Se non fossi così forte. Metterò quella in cui sei tipo un pensi. E va bene. Ah, ve lo dico? Quello dico e quello. Quello nego. Settimana prossima. Beh, la pale sarà regolare negli altri giorni classici. Solo dici in diretta, però. Mi raccomando, è importante. Però ci sarà anche un allenamento in un giorno di riposo. Cioè, martedì o sabato. Beh, è tipo l'evento, hai capito? No, fisso adesso, per tutto fine aprile, cioè nella prossima settimana. La mattina. Tipo le 11:30 di martedì o di sabato adesso. Interessante. Beh, lo dico perché. Tuttavia, a livello invece di sessione, per chi non può partecipare a queste sessioni di palestra, per le sessioni di gioco invece ci riaggiorniamo. Tu Giulio sei via? Domenica. Ah, una settimana. Quindi se facciamo senza Giulio, immagino. Sì. E faremo un gioco che non prevede Giulio, quindi. Tipo Anime e Sangue. Vuoi fare un altro gioco? No, vabbè. Arci sta per suicidare. Stai calmo, Arci è divertente. E va bene, allora tu sei qua invece digno finora? Finora niente. Finita, è già finita. Stasera, le 3 di notte. Fino esatto a mezz'ora. No, cosa stai fino a 18? E mercoledì 19. Aspetta. Mercoledì 19 deve essere a Marsiglia. La sera. Sì, però vado a San Benedetto da probabilmente da domenica a martedì. Bella vita. Ma neanche su Skype. San Benedetto no. Però possiamo giocare mercoledì, giovedì o venerdì. Vedi, allora minore rendi sotto stress. Ah, ma scusa, infatti questa domenica per Pasqua. Sì. E che è il 16. Esatto. E torni? Il 18 e il 19 deve essere a Marsiglia. Ah, ok. Boh, mercoledì volendo, se te andesse bene, sì, si va potrebbe bene. Fare. Sì. Vedi, medio da un punto fatica, è più forte in combattimento. Maggiore. No, per esempio, se non so, il mio caso, in un combattimento io il massimo di punti fatica che ho raggiunto è stato 2. Accumulati. Io tipo 7. Sì, ma capisci, okay, che comando casualità usarlo in combattimento è uso il mio round per cioè praticamente accumulo un punto fatica per far ritirare un dado. Se l'altro, se il tuo amico, se un tuo amico deve fare una schivata, tira un 1, tu gli salvi la vita. O viceversa, se l'altro fa un numero devastante. Ma devo attivare il mio potere, quindi accumulare un punto fatica. No, ma mi sa che poi quello di tirare il dado. Cioè, fanno anche tirare l'avversario, se l'avversario fa in una lotta catta. No, aspetta, forse no, non credo funzioni così però. Gli devo fare tirare quell'altro su. Ecco, vedi, minore lo prendi in culo perché è solo di. Ciao, podcast. È solo di. Beh, direi che abbiamo detto molto peggio. È solo di. Sì, praticamente è solo di. Flavor. Cioè, è solo fuori dal gioco. Basta, dice, può far accadere un evento favorevole minore superando un tiro controllo. Invece, quando è medio, posso usarlo in combattimento. E dice, se attivato come risposta, posso ritirare un tiro di dado che ho fatto io. Okay. Capito? Non è fortissimo. La cosa forte è che io di secondario ho deflettere. Quindi, se mi tiri qualcosa, qualsiasi pugno, proiettile, eccetera, lo sparo via. Anche prendete le pistole. Però è secondario. Una cosa, Sala, la parte del regolamento di tutte le varie cose per giocare, a che cioè si trovano tutte. Vabbè, intanto chiudi tutto, ma. Perché sono aspetti tecnici? Ah, sono cose, aspetti tecnici, va bene, dimmi. Il master risponde. Si trovano, si sono tipo in tre. Cioè, abbiamo tenuto la base sulla palestra, onestamente. No, sono vicini, però in realtà. Le robe su come usare il potere sono all'inizio dei poteri. Le robe su. Sui turni sono in un coso combattimento, okay. E basta. E sono le unici cose cazzo. Da sapere più o meno. Sì, boh, più o meno. Okay. Perché devo fare una one shot al gruppo di D&D. Potresti leggerlo, ma. Infatti, no, ce visto che ce l'hai. Devo leggerlo, ma volevo fare. Ma tu fai un gruppo di D&D e non fai. Non ci hai chiesto di integrarlo in. Ma fare diretta. In 3.5. Ma non ci ha mai chiesto di giocare. Vabbè, a parte che. Sono in 7, raga. Cioè. Beh, già in non l'hai mai integrato però in cosa? Ah, mondo. Vorresti la diretta? Lui è, cioè nel senso è lui, non sono gioco io con lui. Vabbè, può farlo. Posso sentirlo? Se vuoi. Sono molto più indisciplinato di come giochiamo noi. Più non credo sia possibile. Giuro, ragazzi, sono molto più indisciplinato. Non credo sia possibile. Cioè, probabilmente non c'è. Se non provo a sentire la storia dietro è di essere molto bravo. Cioè è un costante. Ma questo è un problema del master. Sì, no, esatto. Però dico è un costante battute e cagate e un po' di sottofondo. Cioè, di. Poi ci sono le sessioni in cui siamo bravi, però. Va bene. Ma quante ne avete fatte? Ma in realtà un paio d'anni. Tu fai il master per un no, gruppo? No, no, di. Io ah, sono, no, sei tu. Io sono un giocatore. Ah, un power player. Tradituro tradition. No. Infatti con noi non vuole giocare a D&D perché gioca con gli altri D&D. No, ma altri qua c'ho 3.5. Va bene. Vabbè, niente, dicevo, noi ci vediamo forse domani con una live. O forse domani uscirà solo il podcast. Vedremo. Va bene. Ah, perché fate domani. Ma che ora vi trovate? 5 e mezzo. Vabbè. Ho tutto caldo. Cos'è sta roba? Ah no, per il gioco no. Ma tutto resta, stai calmo, Arci. Aspetta, che devo sentire il muscolo che mi ha detto oggi. Ma raga, non so, speri se li conosce solo Vez, non so cosa dica. Ah, questo. E no, basta. Vabbè, dai. Vuoi che ti vuoi se ripresti il microfono? Il microfono ce l'ho preso da Massimo. Quello che non abbiamo è la live. La live ti basta un cellulare per farla volendo. Sì, appunto. Usiamo il mio. Un'altra cosa importante per che riguarda la sessione di Urban Heroes è che verso fine aprile farò tipo qualche giornata, anche se in giornata al mare, così a caso. Facciamo la sessione al mare. In realtà io volevo fare un crossover con gli altri di qualcuno di voi. Sì, io sto come però detto, non so se si può fare. Disponibile. Perché loro sono un po' avanti nel tempo. Vabbè, vediamo. Un po' scappato adesso. No, però puoi fare una roba tipo uno che arriva dal passato, eccetera. Oppure loro che tornano indietro. E plagiare così me stesso. E plagiare così me stesso e le mie idee sui viaggi. Beh, sia più o meno così, cioè ogni due per tre c'è una qualcosa che non ha assolutamente senso, che sconvolge le cose. Ci pensiamo comunque. Sei tu che capo di niente all'altro. Sì, vabbè, salutiamo gli amici dei... Salutiamo gli amici di Facebook e del podcast. E in particolare la sua cugina che ha scritto su Arci. Sì, da Chicago, così italiano di vedere. È che la gravità è molta e quindi la luce è distorta. Allora, avete visto e sentito... Avete visto Arci, la schiena di Arci? Avete sentito la schiena di Arci? No, avete visto e sentito il 14esimo episodio di Unstructured Heroes. In cui Arci si è rifiutato di fare un combattimento. Con il master, barra sceneggiatore, finalmente dal vivo. Già andata bene quella scena. Sì. So che l'hai fatto per espare, magliare. Seguiteci su Facebook, sia sulla pagina Tycoons and Dragons, sia sulla neonata Riggi DR. Sì, un po' come vi pare, basta ci seguite. Sul blog che è sempre riggdr.wordpress.com. Se volete shoppare su Society 6, stiamo forse lavorando a qualche logo. Sì. Forse. Vabbè, non vogliamo Sì. Non vogliamo darvi troppe false speranze. No, è vero, però non è complicato. E poi ovviamente il podcast che è RipGDR, lo conoscete. Basta, ci vediamo domani o prossima settimana. Domani, che poi vabbè, il podcast sarà... Forse sarà una live su YouTube venerdì. Dai un numero che tanto sto podcast dopo domani. Sì, ma dai un numero perché tanto sto podcast quando lo metti? Lo metti stasera, non credo. No, la live però. Ok, dai un numero di giorno. Che senso? Dopo domani. Che è il venerdì 15. Oggi è venerdì. Sì. Oggi è venerdì, raga, perché minchia, giocano oggi allora. 14. Ah, ok, ci saranno due partite in contemporanea, una di Shadowrun qua a Bologna e una di Star Wars forse a San Benedetto. E tu giocherai tutte e due. Io giocherò tutte e due insieme. No, io gioco, non gioco più a Star Wars. Sono dell'ubiquità. quello là di Yatta, quello giochi più. No. Vabbè, e quindi niente, e seguiteci, ciao. Salutiamo quindi gli amici del podcast. Saluti destrutturati. Ciao amici. Bab destrutturati. Da babbo. Domani sera sta cena del...